Destinazione Natale a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. Trova il regalo perfetto nelle oltre 160 boutique delle migliori firme, con sconti fino al 70%. Vivi la magia delle feste con noi e vieni a trovarci alla Reggia Designer Outlet. Signore e signori, siamo alla terza puntata di questa quarta stagione. Questa è Archeologia Videoludica. www.archeologiavideoludica.net è il nostro sito di riferimento, il nostro Twitter è @videoludica. Grande, grande, questo un giorno ce lo rivenderemo e diventeremo milianali, esatto. Archeologia Videoludica ci trovate su Facebook e su Google Plus, e chiaramente la nostra mail è archeologiavideoludica@gmail.com. scriveteci, qualcuno ci ha anche scritto sia su Archeologia Videoludica che su Dietrologia Videoludica, ci siamo dimenticati anche di rispondere, ma vi prometto che lo faremo. Chi è questa puntata? Chi è in questa puntata a farmi compagnia? Dato che questa volta, grazie al fantastico turnover che abbiamo messo in campo, non c'è Roberto Bertoni, è tornato il mitico, il fantastico, colui che ha dato dignità alle fogne mondiali, professor Jones, Giuseppe Scaletta. Bloop bloop, sono riemerso. Grande Giuseppe, sai che c'è la gente ci scriveva, ma l'avete proprio mandato via, Giuseppe? Sì. Mi avete mannato via, ma sono tornato. Sei tornato, e poi dopo te ne rivai, e poi ritorni. E poi me ne rivado. Io... questo è bello. È bellissimo. Perché tu sei uccel di bosco. È come la malaria. Di bosco, no, sicuramente. Come la malaria, vai e viene, è vero, hai ragione. No, io Giuseppe ti voglio bene. Ma tutti i paragoni altamente positivi, ovviamente, sempre. È chiaro, sempre, non sai che... No, perché vabbè, sai, le fogne, non sa mai quello che si trova dentro. Comunque, bentornato Giuseppe, abbiamo Grazie. Con noi questo new entry che tanto ha fatto molto piacere ai nostri ascoltatori, perché ha aggiunto un po' meno cazzaggine e un po' più di competenza, Newshead Gianluca Santillo. Aspettate di conoscermi. Ok. No, a cazzaggine pure io, non scherzo, però è bellissimo essere di nuovo con voi, quindi proseguiamo, andiamo avanti. Fantastico, Gianluca Santillo, che sapete che ha il suo fantastico canale YouTube, dal quale ovviamente io l'ho scoperto, sapete com'è la storia, era una cosa... Prelevato. Eh? Mi hai prelevato. Sì, sì, lui è così, ascolta podcast e video su YouTube e poi prende, acquisisce. Questo è bravo. Questo me lo prendo, questo me lo caccio. Ci proviamo subito. Ovviamente l'avete sentito, non può mancare per tante ragioni, anche quando manca in realtà poi alla fine lui c'è, il distruggitore Marco Gualdi. Ciao, saluti a tutti, esco fuori proprio dal frigorifero, sapete, perché ormai adesso abito dentro un frigorifero, casa di distruzione. Cioè, la gente mi ha domandato, ma perché la puntata scorsa nel suo intervento preregistrato il distruggitore c'era il vento quando c'era il distruggitore? Non è vento, quello è il frigorifero che spara. Giustamente, cioè, come fai il rumore del frigorifero? Fa così. Cioè, effetti scenici di alta tecnologia, insomma. Va bene, allora, detto questo, come prima cosa dobbiamo inquadrare un secondo, prima di entrare ovviamente nel Barnett College, in questa fantastica puntata che parla della fine della seconda generazione di console, andiamo insomma a inquadrare quello che è il periodo storico, quindi rientriamo un'altra volta in questa rubrica che abbiamo riproposto e che è piaciuta in questa nuova formula, perché è un po' meno noiosa di quella che facevamo insomma nelle prime due stagioni, quando la gente ci bestemmiava contro e noi insistavamo a farla. Quindi inquadriamo il periodo storico con l'uovo del tempo. La storia di questa puntata abbraccia un arco di tempo che va dal 1976 al 1984, ovvero dall'anno di uscita del Fairchild Channel F alla seconda grande crisi del mercato videoludico. È un periodo che apre con grandi cambiamenti nel mondo dell'informatica, con ad esempio la fondazione nel 1976 da parte di Steve Jobs e Steve Wozniak di Apple Computer e con tristi fatti di cronaca nella penisola italiana. Come non ricordare il terremoto del Friuli, 6 maggio 1976, o la nube tossica di diossina a Seveso, 10 luglio 1976. La fabbrica, sì, non dovevano metterla lì. Sono partita dalla mia casa e non tornerò più. 10 luglio 1976. È passato da poco mezzogiorno. Una grande nube nera si leva nel cielo di Seveso in Brianza. Non si tratta di uno dei soliti nembi che preludono a un temporale estivo. Questa nube è carica di veleno, la diossina. Diversi i fatti che meritano di essere ricordati e ne citiamo alcuni solo a titolo esemplificativo. Il più grande disastro nella storia dell'aviazione civile, il 27 marzo 1977 a Tenerife. Enzo Tortora inaugura Portobello, sempre nel 1977. Grazie, signore, signori. Siamo arrivati alla 11ª puntata. Prima di cominciare vorrei dire che ho visto poco fa il generale Dozier. È tornato a casa, ha potuto fare il suo regalo di Natale. Noi ne siamo felici e siamo grati agli uomini, agli italiani, agli uomini della forza dell'ordine che gli hanno consentito di tornare a casa. Siamo veramente felici. Il 2 febbraio del 1979 viene trovato morto il bassista dei Sex Pistols, Sid Vicious. E il 26 gennaio del 1983 viene rilasciata la prima versione di Lotus. La chiusura di questo periodo lascia un mondo in evoluzione, dove culture e società affrontano cambiamenti repentini. Il 24 gennaio 1984 nasce il primo Mac. Il 3 dicembre dello stesso anno la British Telecom viene privatizzata, simbolo di un processo che sposta l'attenzione ai servizi dal pubblico al privato. Albano e Romina vincono il Festival di Sanremo e nelle sale cinematografiche escono Terminator e Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Sono venuto a portarti una cosa. Dottor Jones, niente di quello che tu hai mi può minimamente interessare. D'accordo. Sei un uomo fantastico. Forse potresti diventare il mio schiavo favorito. Vai a letto con i gioielli, principessa? Sì. Perfetto, allora, tratti insomma di questo periodo storico che in realtà va dal 78 al 1983-84, diciamo così, sono cose, un periodo storico che stiamo marcando e rimarcando, perché chiaramente stiamo raschiando sempre lo stesso periodo storico e siamo soltanto alla quarta stagione, quindi questa è una cosa imbarazzante. Ma per entrare nel vivo di questa puntata, che poi in realtà chiude un po' un ciclo, perché appunto andiamo finalmente ad uccidere questa seconda generazione di console, infatti basta. Entriamo nel Barnett College. Ma siccome che non basta tra jingle e inserti, e noi siamo sempre estremamente contenti, Roberto Bertoni, che è assente non per la mozione di sfiducia, che comunque ricordiamo è sempre attiva ed è sempre pronta ad essere votata, esatto, nessuno l'ha mai ritirata sta mozione, però nessuno l'ha mai votata, bisogna dire che è in stallo, un po' come Berlusconi che non sa ancora se votare la fiducia, esatto, o meno, bravo, esatto, poi dopo se ne va schifato dal Parlamento. Non parliamo di queste cose, vi prego. Detto questo, insomma, dare anche una connotazione dal punto di vista del panorama economico rispetto a quello che è anche l'ambito insomma videoludico, andiamo a capire in che periodo storico e quali sono il contesto economico appunto di questo periodo tramite questa scheda di Roberto Bertoni. Ciao a tutti archeologi 8-bit. Questa volta mi spiace, ma dovrò essere presente con voi in forma ridotta. Questo per la gioia di tutti coloro che comunque non amano il glorioso umorismo polacco. La puntata, peraltro, come credo abbiate, o penso, spero, abbiate avuto modo di sentire, ha avuto una genesi travagliata, soprattutto per quanto riguarda il titolo. Purtroppo le migliori scelte sono state cassate, anche dobbiamo comunque considerare che vige un regime pizzocratico, quindi in qualche modo le scelte sono limitate, quindi cerchiamo di farci andare bene. Perché qua? Diciamo che volevo darvi qualche indicazione di un contesto di quello che era il panorama economico-sociale che va dal 76 all'84, ovvero quella che è stata comunemente definita come la seconda generazione di console. 84 è la fine convenzionale che viene data un po' per questo periodo, e per intenderci coincide bene o male con quello che è stato il famoso deserto del Nevada, con le cassette di ET che sono state sotterrate in una discarica. Un episodio molto d'Area 51, però penso sia una delle cose più importanti, quello che più si ricordano in quel particolare periodo della storia. La domanda quindi che potremmo farci è: quali sono state le cause scatenanti di questa crisi? Soprattutto considerando quelli che sono stati poi i mercati principalmente interessati, ovvero gli Stati Uniti, e qui qua lo sappiamo, nel senso che gli Stati Uniti fino a qua hanno ricoperto comunque un ruolo centrale nell'industria videoludica, e poi il Canada, uno stato che magari non sempre è nell'onore delle cronache, ma che comunque è importante considerare in questo contesto. Allora, cerchiamo appunto di capire il perché. Innanzitutto bisogna considerare che uno dei principali imputati credo che sia stato sicuramente l'eccessivo numero di macchine presenti sul mercato. I consumatori erano costretti a frazionare le proprie scelte, questo comportava di fatto break-even sempre più difficili da raggiungere, soprattutto in tempi brevi, o perlomeno in tempi tali per cui coprire l'investimento non fosse un problema. Poi abbiamo anche un quadro di qualità non sicuramente elevata, gli sviluppatori erano presi un po' dalla sindrome del clone facile, e poi c'era una scarsa protezione delle loro opere, tant'è vero che ricordiamo in questo periodo diverse cause fra diversi sviluppatori, Activision, Atari, di qualcosa abbiamo già parlato peraltro, e quindi in ogni caso possiamo appunto dire che la situazione era sicuramente facile. Beh, se pensiamo che appunto non essere riconosciuti come autori in qualche modo penso che ne limitasse l'operato, e le ripercussioni peraltro di questa cosa le vediamo ancora oggi con tutta una serie di protezioni delle opere di ingegno e anche diciamo una cerenta all'ingresso dello sviluppo di alcuni titoli console che in qualche modo è figlio di questo tempo. E infine secondo me bisogna considerare anche l'emergere degli home computer come strumento di lavoro che si proponevano allo stesso tempo anche come piacere casalingo, quindi un esempio fra tutti il Commodore 64, il tutto rendeva la vita davvero difficile per i produttori di console che pur di rimanere sul mercato erano spesso costretti a una guerra di prezzi letale perché appunto ne rendeva sempre più difficile la permanenza con tutto quello che abbiamo appena letto. Aggiungiamo a questo quadro anche il fatto dell'inflazione che soprattutto negli Stati Uniti con il settore econop che non riusciva a regolamentarsi in maniera adeguata, si era passato dal classico quartino al dollaro addirittura, rendeva diciamo il quadro poco stabile, e la cosa non era sicuramente positiva soprattutto in un settore dove l'evoluzione è in evoluzione, quindi ancora tutto da scoprire, da indagare, come quello dei videogiochi. Vabbè, queste sono un po' le cause che volevo portarmi. Che conseguenze abbiamo? Fondamentalmente tre, e le stiamo pagando tuttora. Paghiamo poi, per amore di uno può pensare che siano positive o negative. Innanzitutto è stata una delle più evidenti, è stata la perdita del baricentro statunitense per il mercato videoludico a favore di quelli che sono poi i rivali giapponesi. In pratica il mercato si è spostato dalla visione occidentale alla visione più orientale per quanto riguarda il mercato console. Poi abbiamo quello che stavo dicendo prima, che è un po' il discorso dei numerosi produttori di software che nascono come funghi e ma vedono il loro lavoro sempre più regolamentato da una parte, ma anche più riconosciuto. Se pensiamo che ad esempio spesso il loro nome non va neanche citato all'interno di un gioco, capite che la differenza è sicuramente enorme. E poi quella che forse è la perdita più grande è l'appiattimento un po' dell'architettura delle soluzioni hardware disponibili. I produttori giocattoli in pratica sono usciti dal mercato, sono entrati gli specialisti dell'intrattenimento elettronico, e l'intrattenimento elettronico per forza spesso ti comporta di dover appiattire le proprie scelte, o meglio cercare di fare soluzioni più economiche possibili, quindi poche soluzioni adattate in più contesti sicuramente rendevano tutto più facile da sviluppare e più economico. Questo senza considerare Nintendo, chiaramente, perché Nintendo è una casa tutta particolare. Ecco, questo è un po' il contesto che voglio lasciarmi, quindi adesso vi lascio all'ascolto dei miei amici e colleghi, sperando di non essere troppo perculato a questo giro, e buon ascolto a tutti. Ah, ma che bellissima scheda, piena di sollazzo, piena di simpatiche battute, bellissime. Quindi oramai la conduzione di questo programma è diventata anarchica. Che bello, che bello. Va bene, insomma. Amo Roberto Bertoni e la sua ilarità bulgara. Parliamo delle console minori di questa seconda generazione, Giuseppe, insomma... Finalmente, dai. Io vorrei andare a chiudere, insomma, questa... Chiudiamo. Giuseppe, tu stasera sarà il boia, tu sarai il boia della seconda generazione, tu taglierai sì, ma anche voi mi sa vi siete preparati abbastanza bene a chiudere in un trionfo di merda di luci psichedelica questa generazione, perché poi insomma, con macchine molto richieste credo, no, a furor molto, di popolo. Beh, chiaramente, però ci sono le chicche chiaramente, noi sì. Abbiamo parlato delle console più importanti della seconda generazione, quelle che poi alla fine rimangono, allora noi abbiamo fatto un ragionamento: o le ignoriamo completamente perché quelle rimangono chiaramente so le zozzerie, in realtà hanno la loro dignità storica, noi per dovizia storiografica, esatto, dobbiamo ci siamo posti questa questione, cioè nel senso le trattiamo oppure le ignoriamo completamente. Quindi noi abbiamo preso, Giuseppe confermami, quattro console però sono come se fossero quattro, esatto, che sono due nella prima parte e due nella seconda parte del Barnard College. Noi insomma cercheremo di affrontare il discorso dal punto di vista dell'hardware, dei videogiochi e soprattutto per quanto riguarda, insomma, per far sentire importante anche Marco, ci abbiamo buttato in mezzo anche le perculate che potevamo, no, in realtà quella sarà la parte più divertente, la puntata sarebbe, si potrebbe fare solo su quelle, direi. Comunque. Quindi allora bisogna iniziare con il Bally Astrocade del 1977 e l'Odyssey 2 1978, che tra l'altro è stato motivo di discussione interna all'interno della redazione, perché io sostengo che di sto cazzo di Odyssey ne abbiamo già parlato anche fin troppo, insomma, anche sì, io infatti l'ho ignorato proprio completamente, esatto, almeno non esiste. Quindi l'hardware. Sì, prima faccio un piccolo cappello, diciamo, a questo discorso. Hai ragione, scusa. Anche perché il fatto di dover chiudere una generazione ci pone nelle condizioni di fare un po' di spam. un po' di spam alle nostre puntate passate. Quindi in quello che è il viaggio che ci sta portando dalla seconda alla terza generazione di console, non possiamo fare a meno di raccattare alcune tra le macchine forse meno importanti, a volte meno conosciute, per usare un eufemismo, come quelle che affronteremo oggi nel nostro Barnard College. Ricordiamo che le console di seconda generazione hanno come tratti più o meno comuni la presenza di un microprocessore, cartucce ROM per l'allocazione dei giochi, questi sono i tratti, diciamo, più o meno conduttori, una risoluzione ovviamente più avanzata rispetto alle macchine di prima generazione, tipo dei 10 e titoli sì, pienissimi di pixel, straripanti di pixel, sicuramente buoni, titoli belli. Titoli si spera anche poi soprattutto l'ultima sarà piena di pixel, prendo a pixel in faccia anche. Dicendo infatti, come ci dirà Gianluca, titoli certamente più avanzati dal punto di vista tecnico, ovviamente, grazie ad artifici, che ne so, come l'uso dello scrolling, nuove cose spaziali che ci allieteranno quest'oggi, diciamo che erano talmente avveniristiche queste cose che sono state un po', diciamo, erano avanti, non sono state, diciamo, l'hanno mandate talmente avanti mai che più utilizzate, hanno fallito, perché sì, sono morte, sono andate oltre il fallimento, esatto, vengono dal fallimento, vengono dall'oltremondo. Vabbè, dai, vai, scusa. Beh, quindi ricordate la puntata 2x01 Déjà Vu, che ci ha fatto scoprire l'innovativo joystick senza bottoni del Fairchild Channel F. Con ben due puntate, la 204 e 205, entrambe nominate prima guerra consolare, abbiamo sviscerato fin nei dettagli l'epico confronto tra due mostri sacri come l'Atari 2006 e l'Intellivision di Mattel. All'inizio della terza stagione, episodio 301, abbiamo narrato la affascinante storia del ColecoVision e di come si assicurò la strategica partnership con Nintendo, mentre il mese successivo abbiamo addirittura disaminato un mercato trasversale a quello domestico, il mondo dei portatili, quando nella puntata 302 dedicata alla genesi proprio di Nintendo abbiamo introdotto gli indimenticabili scacciapensieri Game & Watch. Bene, ma tutta sta roba abbiamo fatto, cioè. Tutto sto sapere abbiamo diffuso nel mondo. Mia. Oggi finalmente aggiungere e chiuderemo il cerchio remando il nostro barcone fino alla grande crisi dei videogiochi dell'83 in un requiem che certamente non ci priverà di, come dicevamo, interessantissime macchine dalla tecnologia a volte sopraffina, ma dagli esiti commerciali purtroppo sfortunati, a volte per colpa degli stessi produttori come vedremo, altre per altri fattori tipo a culo. Sfiga. Direi di iniziare con il Bolly Astro Key. Già che sei Bolly, che sappiamo che Bolly faceva la sua storia, faceva i flipper, che faceva? Ma nella sua storia ha fatto delle scelte altalenanti, della serie una politica facciamo ma non facciamo, esatto, una politica aziendale un po' a culo usciamo. Piuttosto che diciamo che, e anche questa volta non si smentisce, esatto, direi chiaramente. Bene, la prima tormentata console è quella sviluppata da Midway, divisione videogiochi di Bally Technologies, nel 1977 col nome di Bally Home Library Computer. È venduta a partire dal 1978 per via di ritardi nella produzione, per competere direttamente proprio con Atari 2006, che ricordiamo essere posta sul mercato nell'ottobre del 77. Il suo nome ufficiale a questo punto della sua storia, perché non è che cambia nome una volta, giusto, era Bally Professional Arcade. L'anno successivo Bally decise... Significa pancia, però. Ah sì? Eh sì. Bravo, il nostro linguista ci suggerisce. Che significa? Significa pancia. Bally Astro Cade. Non ci rompere le bolle. Esatto, dire, non ci fallo parlare, le... non si pancia. Rompere le bolle. L'anno successivo Bally... Meglio che di me. Però decise... Scusa. Arguì così che è il momento di lasciare il mercato dei videogiochi arcade, visto che si era rotto appunto le Bally, e decise di vendere la sua divisione dei prodotti di consumo, che includeva appunto il reparto per lo sviluppo e la produzione di questa console da gioco. E quindi i diritti sull'Astrocade furono in seguito acquistati da un'altra società, la Astrovision, che la produsse col nome finalmente definitivo di Astrocade fino al 1983, quando, con la crisi che colpì il settore dei videogiochi, la console fu tolta dal mercato per scomparire definitivamente nel 1985. Andiamo subito a sviscerarci, che ne dite, le caratteristiche tecniche, prima di fare alcune considerazioni sull'hardware in particolare. Posso aggiungere solo una cosa? Yeah. Allora, l'Astrocade, ho letto su una pagina web, veniva venduto al lancio a $299. In che anno, scusa? Questo nel 77, $250 erano tipo, che ne so, una cucina completa, dai, insomma, ci sta tranquilla. Secondo l'inflazione del tempo era $1052. Una cucina da coso, da mondo convenienza. A IKEA, vabbè, complimenti. Non ha avuto successo, strano. Sì. Vabbè. Beh, hai fatto bene a dirlo, perché poi posso dire, finisco invece dicendo una cosa, che come molte console dell'epoca era teoricamente dal punto di vista grafico di gran lunga superiore al 2006. Questo dimostra quanto poi in realtà non è solo la mera tecnica che vince, quanto poi in realtà magari un po' la fortuna e un po' anche magari scelte commerciali, no? Perché comunque Atari ha vinto quella generazione, diciamo, dal punto di vista commerciale, se non dico una cazzata, no? Beh, sì, l'ha vinta. Sicuro. Ok, vai Giuseppe. Forse l'hanno persa gli altri comunque. Anche. Sì, questo sì. Come si chiama quello? Plimpton? Ci ricorda come perdere le campagne marketing. Vabbè. Allora, dicevamo che l'Astrocade sfoggiava una bellissima CPU Z80. Ciao amici di archeologia informatica, voi ne sapete di più di noi. A 1,789 MHz. Una RAM di 4 KB, poi con espansioni si poteva portare fino a 64. Una ROM da 8 KB, le cartucce sfoggiavano anch'esse 8 KB, aveva 4 porte, controller, un'altra porta per l'espansione. 4 porte e una finestra. Scemo. E una per la penna ottica. Il suono era a 3 voci, con effetti di rumore e di vibrato. Così praticamente. E le risoluzioni andavano dalla 160x102, mentre passava a 160x88 quando si adoperava il BASIC, e poi con la RAM Expanse si poteva arrivare anche a 320x204 pixel. Aneddoto sulla risoluzione. Negli anni 70 Midway aveva sviluppato per i suoi arcade un sistema grafico davvero potente, basato su un processore Zilog Z80 che pilotava un chip grafico. Questi due chip utilizzavano un buffer RAM in comune. Il chip grafico gestiva due modalità, una a bassa risoluzione, quindi quella 160x102, ed un'altra ad alta risoluzione, quella 320x204, entrambe con quattro colori memorizzati in 2 bit per pixel. Allora, questa combinazione di colore e risoluzione era al di fuori totalmente della capacità della RAM dell'epoca, che non poteva fornire i dati ad una velocità tale da stare al passo col segnale video che veniva inviato alla TV, e quindi si cercò un escamotage col quale si riusciva ad aggirare questo problema. Il chip grafico caricava in un buffer piuttosto veloce interno i dati corrispondenti a una linea della grafica. Dal buffer questi dati venivano letti e inviati alla TV, e grazie a questo traccheggio il chip grafico interferiva meno con il lavoro della CPU, che utilizzava appunto la stessa memoria per i propri dati. C'era questa condivisione che veniva superata con questo escamotage. Sfortunatamente però sull'Astrocade, che appunto derivava da questa tecnologia, fu scelto di non connettere i pin necessari per utilizzare questo trucco, quindi la console lavorava soltanto alla risoluzione più bassa. In questa modalità servivano 160 con la tecnologia, cioè troppo. No, allora noi i pin non li colleghiamo. In questa modalità servivano 160x102 per 2 bit, cioè circa 4000 byte di memoria per conservare i dati della grafica. Dato che la macchina aveva solo appunto 4 kilobyte di RAM, rimaneva pochissimo spazio, quasi nulla, per l'allocazione dei programmi, e quindi i giochi venivano piazzati generalmente sulla ROM, e la RAM libera era utilizzata per memorizzare il punteggio e le opzioni del giocatore. Insomma, un'occasione sprecata, una grandissima cagata, scusate il termine tecnico dal punto di vista hardware. Ma collegare quei pin quanto costava? Cioè, 250.000 dollari. Dopo che hai speso $1000, penso che costasse troppo. Qualche altro migliaio di dollari, insomma. Boh. Comunque all'Astrocade riconosciamo un joystick davvero avveniristico per l'epoca. Un dispositivo relativamente complesso che incorporava diversi tipi di meccanismi di controllo. Nasceva infatti dall'esigenza di non adoperare controller differenti per giochi con gameplay differenti, come faceva Atari per la sua console, quindi creando un dispositivo adatto a più situazioni di gioco. Questo aveva praticamente un'impugnatura simile a una pistola, che lo faceva assomigliare al manico di una pistola, con un manico delle pistole. Fantastico il manico, con un interruttore a grilletto sulla parte certo, anteriore, scalero, che ricordava il grilletto di una pistola. Ecco. Giusto? Invece sulla parte superiore gli era un piccolo joystick a 4 interruttori ad 8 vie, con l'asticella del joystick collegata ad un potenziometro. Così che lo trasformava in una specie di paddle, tipo per i giochi alla Breakout, per intenderci. Quindi era una summa un po' di tanti controlli messi assieme, e poi sulle note ve l'ho andata a guardare perché è veramente particolare. Ricordiamo che l'Astrocade è stata una delle prime macchine capaci di connettere 4 controller contemporaneamente. Sul lato frontale della console c'era la tastiera a 24 tasti, utilizzata per selezionare i giochi e le opzioni. Molte cartucce includevano più di un gioco, e quando venivano inserite la macchina si resettava e visualizzava un menu che presentava prima i programmi presenti sulla cartuccia e poi i 4 che erano residenti nella ROM. La parte posteriore, superiore, della console era vuota. Giustamente c'era dello spazio in più, e mostrava un alloggiamento che poteva essere aperto per inserirci fino a 15 cartucce. Avevano fatto il portacartucce sopra la console. Allora, bellissimo. Ricordandoci di collocare la console nel suo periodo storico ideologicamente, facciamo notare che l'Astrocade fu uno dei primi sistemi basati su cartuccia. Quelle utilizzate dalla console erano chiamate videocades, in particolare, e le loro fattezze infatti ricordavano molto le comuni musicassette con le quali evidentemente si voleva giocare di somiglianza. La Bolli Astrocade aveva anche velleità di computer, infatti fargli gestire il BASIC fu molto difficile, perché già il buffer video portava via quasi tutta la memoria disponibile. Quindi la soluzione adottata, molto complessa, fu la seguente: i programmi in BASIC venivano memorizzati nella RAM video, alternando i bit del programma con i bit dell'immagine. Cioè il BASIC utilizzava tutti i bit pari, mentre l'immagazzinamento dei dati video venivano usati in quelli dispari. C'era un 50-50, così, allegrissimo. Smezzando. Il rovescio della medaglia era che molte delle caratteristiche grafiche quindi venivano disattivate, non erano disponibili né utilizzabili. Ultima cosa, altro sforzo dettato dalla volontà di avvicinarsi al mondo del computing era l'unità di espansione ZGRAS. Questa si inseriva sotto all'Astrocade, trasformandola in un vero e proprio computer. Essa integrava infatti una tastiera completa, un coprocessore matematico FPU, 32 KB di RAM ed una nuova ROM da 32 KB contenente il linguaggio di programmazione GRAS, conosciuto anche col nome di Graphics. Erano presenti inoltre porte per collegare un lettore di cassette e un'unità per floppy disk. Diciamo che con l'hardware addirittura floppy disk. La storia abbiamo c'aveva veramente delle velleità, che sono rimaste, ci faceva nulla, sono rimaste tali, poi sono rimaste velleità, ma sì, perché poi fra l'altro il progetto ZGRAS insomma andò avanti in parte, prototipi, robe varie, quindi fu mezzo troncato fin dalla nascita. Boh, chissà, una o due persone avranno provato questa periferica, questa donna, ma chissà quanto costava il floppy disk, visti quanto costava la console, voglio dire, appunto, forse può essere uno dei motivi per cui non ha venduto. Ma chi lo sa, per colpa dei floppy disk proprio. Ma scusa Peppe, tu dicevi che praticamente a schermo aveva quattro colori? Non sa. Allora, a schermo per essere precisi, l'ho detto io, sì, 4 oppure 8. Ah, ok, da 4 a 8. Ok, vabbè, ok. Sì, no, sì, no, ma perché poi ci hanno fatto dei magheggi, sono riuscito a mettercene di più. Come sempre, sì, sì, sì, sì, infatti. Vabbè, insomma, anzi, no, poi chissà la palette completa, perché poi a me queste cose un po' mi scimmiano, ma lo chiederemo anche agli amici di archeologia informatica. Allora, ormai abbiamo la scusa che tutte le cose che non sappiamo le chiediamo ad altri che saranno, noi si prenderanno. Ma l'abbiamo fatta fare apposta la trasmissione per salvarci, giusto, a noi, perché... E l'abbiamo fatto anche per creare confusione nella tua mente quando devi ricordare i contatti dell'uno o dell'altra, per chiamarle similmente. Però ricordiamoci che insomma nelle prime puntate c'era gente che ci scriveva le mail: siete degli incompetenti, non sapete cos'è uno oscilloscopio. Quindi a quel punto siamo corsi ai ripari in questa maniera qui. Allora, i giochi. Sì. E i giochi. Beh, di questa fantastica macchina, che poi tra l'altro insomma contestualmente non è, cioè nel senso, no, contestualmente non c'entra niente il termine, dico, non è manco male, poi alla fine potenzialmente, cioè, vedendola, insomma, non lo è, potenzialmente non era ai livelli dell'Intellivision, ma insomma alla fine era caruccia come... Sì, sì, sì, ma vedendo poi i giochi dell'Astrocade ho pensato subito una cosa. Ci sono tanti cloni qui su questa console e tutti questi cloni sono stati fatti su hardware da coin-op, ma l'Astrocade li riusciva sempre a riprodurre con una certa fedeltà. Comunque, prima di parlare dei giochi, voglio un attimo aggiungere una cosa su un argomento tra l'altro caro ad archeologia videoludica, quello della preservazione, di cui ha trattato tra l'altro la seconda puntata. Quanto sarà difficile preservare l'Astrocade, vista la particolarità del controller? Cioè, arriverà sicuramente un momento in cui l'emulazione non ci potrà restituire queste cose, queste emozioni del controller, che è una cosa tutta strana, con il paddle sopra, il pad direzionale. Quindi questi giochi sono comunque... giocarli su PC o dove sarà comunque un po' un surrogato, un'esperienza veramente... Beh, forse non sarà originale. Un'esperienza completa, ma non credo che il gameplay di quei giochi risenta... No, certamente, però ecco, un controller così particolare secondo me poi ti rimaneva un po' impresso nel cuore, non so perché l'Astrocade non credo abbia conquistato molti cuori. Ma guarda, basta spezzare a metà un joypad della PlayStation e certo, c'è più o meno un controller, diciamo. Un DualShock da una parte, sì, dai, monoshock, sì, esatto. Un monoshock. Che shock! Vabbè, comunque detto questo, sì, che sì, in effetti tendenzialmente insomma tendo a concordare. Vediamo se c'è qualche cosa che è veramente sbalorditivo. Diciamo, per quale motivo mi darei comprare un ballo di Astrocade? Bella domanda, quello che mi è appena venuto. Malattia degenerativa. Gianluca, fai così, fai dei tuoi motivi, diamo un po' di giochi e poi dopo vediamo qualche film. Anzi, commentiamo insieme qualche filmato che poi metteremo nei link. Va benissimo. Allora, vai tu e poi dopo guidiamo. Ok, allora, tieni presente, caro Simone, che qui non ci sono giochi su licenza perché li prendeva tutti la Atari. Ci sono tantissime animazioni, imitazioni e scarso persino l'Homebrew perché appunto non è che abbia venduto tantissimo. Tra le imitazioni migliori ci sono Incredible Wizard, che sarebbe un clone di Wizard of War, fatto molto bene. Tutti questi cloni sono fatti veramente molto molto bene. Quello più impressionante è probabilmente Galactic Invasion, che è un clone di Galaxian, che ti dimostra alla fine come le distanze da un coin-op fossero davvero risicate. Galaxian è del 79, l'Astrocad è del 77, a parte la risoluzione i giochi sono veramente molto molto simili. Beh, molto risicate tra un ColecoVision, un Intellivision e forse un Bally Astrocad, ma non erano così risicate con l'Atari 2006, che ha vinto. Che ribadiamo, ha vinto sta generazione, non si spiega sta cosa. Che c'era anche se il Pac-Man che fricherava, cioè. Grande amore, perché io quella c'avevo, cioè, stato il mio primo grande amore, quindi politica aggressiva, tutte le esclusive dell'Atari compravano tutto loro, dici, forse esatto. Per quello che sono andato a piccolo. dai, gli è costata questa storia. Infatti. Comunque un Pac-Man c'era anche su Astrocade, sì, si chiamava Muncher. Beh, comunque erano praticamente identico, cioè non è che... Sì. E no, l'unico problema è che non fu una cartuccia ufficiale, non lo produsse la Bally. Tutti i giochi dell'Astrocade erano quasi tutti prodotti dalla Bally, cioè dalla first party, diciamo. Questo qui no, perché appunto magari... Che non fasse far causa direttamente, insomma. Che veramente sì. Spudorato. Cioè. Non dicevo, fatelo voi che a me danno al tribunale, esatto. per sta cazzata non me va, vabbè. E poi tra l'altro, secondo me, su Astrocad c'è uno dei migliori pinball del periodo, che si chiama Bolly Pin, che praticamente presenta due flipper diversi semplicemente sulla cartuccia, però per l'epoca era forse quello, insomma, un po' meno particolare, perché giustamente la Bolly doveva tenere alto lo standard, esatto, dei flipper, esatto. Quelli fisici, quelli veri, non poteva fare brutta figura. E vale la pena comunque citare due Homebrew perché sono fatti veramente bene. Il primo è Crazy Climber, il gioco probabilmente lo conosciamo, quello originale è stato convertito veramente molto bene. E poi un altro è War, che riprende Warlords, che ovviamente era un'esclusiva Atari al tempo, questo è un Homebrew mi pare del 2013 o del 2012, e quindi presenta una grafica molto più colorata, supera quell'ostacolo degli otto colori su schermo di base dell'Astrocade, e è veramente un bellissimo gioco. Purtroppo temo di non potervi raccontare di molto altro perché c'è veramente poca roba. Io volevo... Ma come, noi l'abbiamo fatto venire qua perché parlavi dei giochi. Ci dici dei giochi. Sbagliato questo. Volevo far vedere a Simone una cosa, poi fammi con calma vedere. Te lo guardi in uno dei video che abbiamo linkato sotto, magari te l'ho linkato pure poc'anzi sulla chat, dove secondo 14 c'è un bellissimo clonazzo, visto che si parla di cloni per tutti i giochi di questa fantastica console, anche della lotta dell'X-Fighter all'interno del canale di Star Wars, sì. Incredibile, con grafica simile. Ah, sì, sì. Ed è pazzesca questa cosa. Beh, insomma, aveva anche la sua. Tra l'altro, tra questi 10 video, ovviamente c'è stata pure quella della sfida dei due Gunfight. Esatto, che ne abbiamo parlato, non mi ricordo in quale altra puntata. Cioè, comunque a livello dei colori, insomma, messo bene. Oddio, certo, anche qui le DO3. Qual era l'altra console che a forza dei colori ti cicava? Non mi ricordo, non abbiamo parlato sempre 2 o 3 anni fa. che forse parlate, ma vi anche gli euroni. Esatto, forse ne parlano. Vogliamo vedere qualche filmatino? Facciamo una piccola anticipazione. Perché penso che Gianluca ha detto che più di questo, insomma. Documentiamo io e Gianluca, tanto questi sono quasi tutti i giochi che ha citato lui. Allora, se apriamo gli appositi links, allora, prima di tutto c'è un filmatino di presentazione dell'Astrocade Bolly, e vediamo se l'avete aperto anche voi il primo link colorato, non so se vi è capitato. E c'è un simpatico commercio dove c'è questo tizio simpatico che è appena uscito dalla tomba, vedete che cammina anche senza fruttuando praticamente, e che ci fa vedere i suoi simpatici giochi, che tra l'altro dà anche la possibilità al bambino di crearsi dei disegni di merda, lì ceppe di cazzo ovunque praticamente. Perché, e qui è la cassetta, il film d'Alberto Sordi, esatto. Che fai, figlio mio? Ceppa di cazzo. Poi fa mestra, poi col pennarello basic, perché? fa vedere anche il Basic con cui era possibile programmare i propri giochi, pensate quanto era bello, quanto era avanti questo. Immagino, voglio dire che se il VIC-20 ci aveva 20 linee, figuriamo delle ce l'aveva 18 e mezzo, esatto, figuriamo se rompere le palle. Invece con il secondo link che metteremo sempre tra le note abbiamo un po' tutti quanti i giochi che stavamo prima citando, anche stava citando anche un commercial un po' lungo, esatto, che ci fa vedere questo commercial, mettete queste cose, scheda audio, scheda grafica, scheda di merda, fulmini, effetti speciali e colori ultravivaci, Tron, noi siamo fantascienza, Astrocade, fulmini, lampi, ecco, qui si vede bello, però bella console, esatto, e fa vedere tutti quanti i giochi che ti vengono contro, c'è una carrellata come Incredible Wizard citata da Gianluca, tu li scansi mentre ti vengono, io mi sono abbassato infatti quando ho visto poi sta cosa che sto gioco è Get Ready Go, è fantastico, belli qui, questo è il, vabbè, sono i giochi quelli di prima, non è che dovremmo mettersi a commentarli, volendo potremmo anche farlo, dura 5 minuti non dire proprio sono, comunque sono, se volete dargli un'occhiata, appunto ci sono i maggiori successi della console, tra cui quest'altro gioco, o gli unici giochi che sono stati prodotti, che sono bellissimo 35 in totale, quindi non è che in cui tu sei un quadrato al centro, questo l'ho visto, questo gioco l'ho visto nell'ultimo video che ha fatto Gianluca, quello là che c'è il fregno in mezzo e deve sparare le cose che gli vengono contro, è il gioco più inutile che sia mai stato programmato. Ce ne sono dei giochi inutili, questo no, ma questo lo programma pure io, pensate che quello lì che si chiama Space Fortress è famoso perché ha una sequenza di game over di 15 secondi, cioè tu ogni volta che perdevi una vita dovevi aspettare 15 secondi perché l'astronave non potevi manco skippare, immagino, non è che il termine skip in inglese, allora cioè, è stato inventato successivamente, ma l'hanno uccisi poi i programmatori, l'hanno perseguitati nelle loro vite future, gli hanno lanciato un anatema, quindi... va bene c'è Marco, altro video per qualche altro link che annunci per le note dell'episodio, no, dopo con calma, per questa console stupendissima c'è soltanto questo, però insomma io sto spulciando, vediamo se c'è qualche altra merda di cui vale la pena parlare. No, questo è bellissimo, un gioco che ci sono delle oscillazioni tipo terremoto a scala Richter, che è questa cosa? Non lo so, forse è qualcuno che disegna probabilmente, ma questo è un programma di disegno vettoriale, mamma mia che zozzeria, di andare avanti, anche perché queste lucine colorate della Balli a questo punto noi salutiamo con affetto l'Astrocade della Balli e andiamo avanti, apriamo il nostro secchione informatico della virtuale e ce lo ributtiamo dentro. Esatto, quindi lo buttiamo al cesso come tantissime altre, no, non scherziamo e rispettiamo, poi se tutti gli ascoltatori che hanno avuto un Balli Astrocade ne vogliono parlare scriveteci, ma sicuramente non esistono e andiamo invece dritti ad una casa, una casa che è stata importantissima per la tecnologia mondiale, perché stiamo parlando della Philips se non sbaglio, ma che coi videogiochi ha fatto un po' non ci ho capito niente e parliamo ovviamente della seconda iterazione di una console che è l'Odyssey, di cui abbiamo parlato tantissimo nella prima era di archeologia videoludica, e con quella bellissima puntata che ti ha sdoganato come inventore di nomi di puntate, anzi no, forse ha sdoganato Marco, è tutto un magna magna, forse non l'ho inventata io, forse Marco, non è che io, forse si è inventato da solo del... post apocalittico, sicuro non è stato Bertone, io non sono stato, non c'era ancora, non era nato, sei stato te, è tutto un magna magna, te lo dico io, sì. Va bene, parliamo dell'Odyssey 2 1978. Allora, ve lo ricordate l'Odyssey? Era quello là che non c'aveva manco la grafica, che praticamente disegnava una cosa luminosa sullo schermo, tu ci appiccicavi delle cose colorate sul televisore e a quel punto ecco là che hai fatto il videogioco. Era un po' come dire, insomma, mettici un po' di fantasia e non rompe le palle. Però la tecnologia dall'Odyssey 1 e l'Odyssey 2 è andata avanti, Giuseppe. Eh sì, Magnavox nei primi anni 70 aveva realmente innovato il mondo dell'elettronica di consumo, infatti ricordiamo che quella fu la prima console per videogiochi introdotta sul mercato, lo ricordate, giusto? Sulla scia, sì, ho detto poi successo... una cazzata, in realtà non era della Philips l'Odyssey, giusto? Ma facciamo finta volendo. Vabbè, la sua storia si intreccia con Philips, c'è qualcosa senza presto, Philips, quindi. Dai. Sulla scia del successo, si fa per dire, dell'Odyssey, è sempre in corsa per rincorrere il mercato delle console a cartucce dominato da Atari 2006 e Channel F, e Magnavox se ne uscì nel 1978 con la seconda versione della sua macchina, chiamata con molta originalità Odyssey 2. Sì. Almeno il 2 è stato messo la Sony, quindi insomma. Sì, sì. Sì, dico, almeno il 2 è stato messo con come l'elevazione, sì, al quadrato. Ah, sì, quante ne sapeva. È originalista. Vedi che storia. Questa è una chicca estetico marchettara, proprio. Bravo, bravo. È stata quella chicca che ti ha permesso di non leggere quel 2 e di confonderlo con l'Odyssey primo. Esatto. E, vabbè, comunque in Europa è meglio conosciuta come Philips Videopack. Ah, vedi, vedi. Hai visto? C'è il nome, il videopacco proprio, cioè, già tanto. Esatto. Salutiamo Max Seggi, perché questo è stata il videopack. La sua prima console, il suo primo amore, quasi. Sì, no. Sì. Bah, comunque, questa console ha cambiato nome più e più volte a seconda dell'area geografica interessata. Beh, veniamo all'hardware. Se ben ricordate, nella prima incarnazione dell'Odyssey venivano utilizzati alcuni circuiti stampati che, inseriti nello slot, azionavano i giochi che però erano incorporati dentro. Era una super gabola, fungevano da selettori queste schede. Magnavox arguì invece questa volta ben bene che con l'Odyssey 2 ogni gioco poteva vantare un'esperienza completamente diversa. Aveva capito che le fregate una volta non sprite, li può fregare sempre, insomma. Esatto, no, no, modalità di gioco particolare, grazie all'introduzione appunto della fantastica tecnologia cartucce ROM intercambiabili. Una cosa che adesso diamo per scontata, ma non era così a quei tempi. Un potenziale enorme al quale si poneva solo il limite dell'acquirente. Ecco, fermiamoci in qualche minuto di sì, raccoglimento, esatto, di riflessione a riflettere sull'importanza dell'introduzione delle cartucce, perché tanti software uguale tante cartucce uguale tanti soldi, a seconda della voglia del portafogli del videogiocatore, a differenza di quanto accadeva con non senza una fine virtualmente. Sì, a differenza di quanto accadeva con le console a giochi incorporati, o col Pong, con le varianti, o con le console di prima generazione, beh, è lì, scusa, il limite qual era? Se il mercato funzionava, se la macchina funzionava, il limite era pressoché limitato, per modo di dire. Beh, fatta questa dovuta constatazione, valida tra l'altro anche per l'AstroKid e tutte le console di quella generazione, andiamo un po' alle caratteristiche tecniche. La CPU era una Intel 8048 8-bit a 1,79 MHz, memoria RAM interna 64 bytes, RAM per l'audio e per video era di 128 bytes, la ROM del BIOS era 1024 bytes. 128 byte? Un kill... Come il BCS, sì, mi pare. No, byte. Assolutamente. La ROM era di 1 kilobyte, di 1024 byte. Per il video usava un processore Intel 8244 per l'NTSC e 8245 per il PAL. Comunque entrambi ha una risoluzione di 160x200 pixel. La paletta era fissa a 16 colori, però gli sprite potevano usare soltanto 8 di questi colori. C'era un audio customizzato, mono, un generatore di rumore, però... generatore di rumore, penso sempre che... noise generator, yeah. C'è un apposito sistema hardware, infatti, della console che fa rumore, sta lì. Sì, hai presente il classico scherzo della petoniera? La magna, mamma, guarda la mia nuova console. Però a proposito dell'audio, questo chip, cioè l'8244-8245, già dal nome duplice, ma un chip, si occupava sia dell'audio che del video, quindi erano due funzioni condivise dallo stesso chip. Le cartucce avevano ROM tipicamente da 2, 4, 8 kilobyte di grandezza. La grafica, rispetto ai competitor dell'epoca, in particolare all'Atari 2006, all'Intellivision e all'AstroKid, era il punto debole di questa console, ma ritengo che poi ce ne parlerà meglio Gianluca fra poco. Noi continuiamo il nostro viaggio dicendo che l'Odyssey 2 era l'unica console ad avere una tastiera alfanumerica completa, a membrana, usata per lo più per i giochi educational, per la selezione delle opzioni, per la programmazione, grazie a Computer Intro! Effetto eco. Una cartuccia concepita per insegnare i rudimenti della programmazione. Eco, no? Certo. Me lo faccio io, perché anche se... perché anche se te lo dicessi tu te lo scorderesti, okay. Quindi così è meglio che lo faccio. Okay, no. Esatto. per prendere in giro. Comunque c'è un video di uno che ci ha messo più di 10 minuti per montarla. Mo ve lo linko qua sulla chat comune. Dico, comunque l'esistenza di questa cartuccia computer intro è l'ennesima scusa per i bimbi, per dire ai propri padri: me la compri il computer per studiare, certo, esatto. Mi consente di studiare tutto. Posso studiare. L'Odyssey 2 aveva dei controller standard, dalle fattezze comuni a quelli del console di quegli anni, quindi si teneva con la mano sinistra e con la destra si muoveva il joystick, un po' come nell'icona di Gianluca Santilio, certo, che ha sui social, esatto, proprio quello. E nell'angolo in alto a sinistra c'era l'unico bottone azione, che era argentato nel primissimo modello della console e poi rosso più avanti con il mercurio altamente tossico, cromo velenoso altamente, esatto. Un'altra l'amianto, forse arsenico. Sì, un'altra differenza è che era nelle prime release i controller potevano essere rimossi dalla console perché c'era la porta e ti tirava il filo dalla porta, mentre in seguito questo filo fu fatto uscire direttamente dal retro della macchina, costringendo all'apertura della stessa per un'eventuale sostituzione, comunque dalla difficoltà non troppo elevata. Come espansioni ricordiamo l'add-on per la sintesi vocale, non so perché tutte queste console dovevano avere questo add-on, e gli effetti sonori avanzati, e addirittura un'esaltante espansione specifica per il gioco degli scacchi, capace di aumentare la memoria e la capacità di calcolo della console al fine di fornire una sfida adeguata, perché la console era troppo scema di suo, quindi necessitava di una CPU ulteriore. E invito infatti gli ascoltatori non posso giocare a scacchi, come si gioca a scacchi invece con l'add-on. E infatti guardatevi la scheda poi linkata nelle note, perché è veramente affascinante questa add-on che ti permette di giocare a scacchi con uno scacchista elettronica intelligente. Concludiamo con qualche curiosità: la console ebbe un discreto successo, raggiungendo il numero di 2 milioni di esemplari nel mondo, che non è poco, di cui 1 milione solo negli Stati Uniti all'anno 1983, senza fra l'altro l'appoggio degli sviluppatori di terze parti, che erano particolarmente assenti su Odyssey. Secondo me questa cosa c'ha la tastiera aiutata tanto. Per quell'effetto me lo compri, papà, sicuramente. Oppure la macchina da scrivere che mi serviva. Poi ciclo vitale della console in Brasile si estese fino al 1987. C'è anche un motivo probabilmente. In Brasile. E vabbè, ha venduto grazie alla colorosa accoglienza riservatale. E nel resto del mondo niente poté contrattare in Mattel, anche a causa appunto della mancanza di giochi su licenza. L'unica licenza arcade fu Tartos. Mi permetto di nominarlo perché a te piacciono tanto, gioco labirintico. Il gioco labirintico con le tartarughe di discreta fattura, di cui abbiamo parlato nella puntata 312 dedicata ai videogiochi di cartone. Vi ricordate che a te sembrava quella delle tartarughe ninja, invece era un motivo per pensarti in realtà. Dopo ti correggo però su questa cosa. Attenzione, concludo dicendo che in Europa fu introdotto un modello esclusivo e molto raro, il Philips Videopack G7002, dotato di schermo da 9 pollici integrato, in bianco e nero, e un design abbastanza accattivante che però ne innalzarono il prezzo considerevolmente. Fu un fallimento che mandò. E poi passo subito la parola a Gianluca che giustamente mi corregge su una cagata. Allora, Gianluca, i giochi, perché insomma questa sembra una macchina ai limiti della decenza, della realtà. No, allora, una cosa simpatica innanzitutto è che tanti giochi dell'Odyssey 2 sembrano abbastanza simili tra di loro, perché c'era una cosa un po' un po' strana nell'hardware, perché la Philips aveva messo nella ROM del sistema già degli sprite e delle bitmap, tipo gli alberelli, le persone, sono quasi uguali in tutti i giochi perché utilizzavano quelle già presenti nella ROM del sistema, quindi risparmiando poi spazio sulla cartuccia. Vabbè, piccola... No, vabbè, diciamo che come idea, nel senso come supporto anche agli sviluppo, poteva anche essere... Ecco perché c'è un gioco con gli alberelli che volano tipo astronauti. Sì. Space Invaders sono degli alberelli che scendono. Ah, delle persone che vanno a destra e a sinistra, dall'altro. Sì. No, vabbè, ribadisco, no, la cosa di per sé poteva anche essere, insomma, carina, però è chiaro che se invece di essere un vantaggio doveva diventare una limitazione, chiaramente... Beh, no, potevano disegnarli da capo gli sprite, che a volte non volevano. Comunque, E come diceva Giuseppe, molti giochi qui sono fatti tutti dalle prime parti, quindi da Magnavox e Philips, terze parti pochissime. Però comunque tra i giochi prodotti da queste due aziende ce n'era uno che risaltava in maniera particolare, pensato come risposta ad, ad Atari sulle sue conversioni discutibilissime come quella di Pac-Man, cioè KC Munchkin, un Pac-Man programmato appunto dalla Philips che era decisamente migliore del Pac-Man ufficiale Atari. Beh, che c'era poco, eh. E ci voleva poco. Chiaramente successo di vendite, perché insomma si vedeva da subito la superiorità. La Atari incazzatissima ha fatto causa, ha vinto la causa e ha ottenuto il ritiro delle copie di questo titolo da tutti i negozi. Quindi beh, in effetti esteriormente cioè molto simile, eh? Sì, è similissimo. Dici nel gameplay, vabbè, ma anche il Pac-Man dell'Astrogate era identico, cioè non è sì che... però lì non l'aveva fatto la Bolli, quindi c'era erano stati più furbi. Invece in questo caso non è andata così, quindi la Philips si è ritrovata con questo bel gioco che non poteva vendere. Quindi a quel punto cosa ha fatto? L'ha trasformata in un altro gioco che secondo me è ancora più bello, che si chiama KC Crazy Chase. In pratica c'è una sorta di... è un incrocio un po' con Nibbler, col serpentone, perché ci sta questo serpentone appunto nel labirinto che si muove e il protagonista, tale KC, che deve rincorrerlo e mangiargli la coda fino a consumarlo, stando attento chiaramente i fantasmini che ancora ci sono nel labirinto e così via. Un bellissimo gioco a mio avviso, tra l'altro molto carino anche graficamente, a parte la risoluzione. Si nota comunque la superiorità rispetto al VCS, insomma, su queste cose qui. Comunque le terze parti qualcosina proprio l'hanno fatta, come la iMagic, che era già molto attiva sul VCS e anche qui ha portato due bei giochi come Atlantis e Demon Attack. Mitico Atlantis, esatto, bellissimo anche secondo me. E Demon Attack c'era anche un Popeye, fra l'altro. Sì, però Popeye e di un'altra terza parte c'è dei Parker Bros, che si occupavano di conversioni. Era un'azienda che aveva evidentemente delle licenze da poter sfruttare su piattaforme ulteriori a quelle Atari, e portò su Odyssey 2 Frogger, Qbert, Popeye e Super Cobra. Quindi allora, a Frogger si riconosce, che Popeye non si capisce, sono dei pixel, sì, ma buttati giocandoci si capisce. Mangia della roba verde e diventa fortissimo. Ah sì? Lo capisci Qbert, solo da quello. Magari si è mandato un link pure a me. Aspetta, te lo do io. Tu parla, Gianluca, vai tranquillo. Vai. Vai, sì, alla fine. E pure Super Cobra non è male, insomma. Ma no, Simone diceva, no, sì, a te, sì, Gianluca, vai alla fine del video. che ti dico a te, vai alla fine. Ci siamo quasi. Anzi, eh? Dilungati, no, su questi qua. Giochi che sono belli. No, dilungati pure. E ci sta Super Cobra, che era una conversione di Scramble, noto anche come Scramble, della Konami, che è il papà di Gradius, insomma. Ed è un genere che magari non si trova tanto su Odyssey 2, insomma, spara tutto a scorrimento orizzontale. C'è anche dell'Homebrew su questa console e manca a farla apposta, pure qui ha cominciato per primo John Dozilla, di cui avevamo parlato nello speciale Vectrex, nella puntata sul Vectrex, che ha programmato nel corso degli anni 90 Amo. Ma che era quello? Scusa. È lo stesso. No, Popeye non si può guardare. Che hai visto? Cioè... T'ho detto io. C'è un ET verde che si muove. Infatti, ma è ET, non è, sono sbagliati, dai. E perché è coperto di spinaci? Qbert era quasi meglio quello da Atari 2006, eh? Vabbè, vai, scusa Gianluca. E quindi c'era questa homebrew di Dozilla che si chiamava Amok, che non era altro che Berserk. Recentemente una compagnia chiamata Revival Studios, che si occupa sempre di programmazione su retro console, ha pubblicato Mage, che è molto ben fatto tecnicamente, sfrutta tra l'altro l'espansione Video Pack G7300, che dà un po' di sfondi più colorati, diciamo. E infine, secondo me, vale la pena di citare Mr. Roboto, che è una riproposizione di Archon per Commodore 64. Archon. Sì. Tra l'altro è una citazione di un pezzo musicale o è la canzone che è una citazione del videogioco? Non ne ho la più pallida idea. E comunque molto particolare su Odyssey 2 è la serie Master Strategy, perché la Philips ebbe questa intuizione, secondo me molto carina ma fatta abbastanza male, di proporre degli ibridi tra gioco da tavolo e gioco elettronico. In pratica si giocava sul tavolo, si facevano determinate cose e poi i combattimenti venivano fatti alla console, si imputavano, diciamo, i vari dati dello scontro e si giocava. Complicatissimo, ho visto un video su YouTube di gente che cerca di giocarci, non ci ho capito niente. Effettivamente sono giustificabili. C'è gente che c'è morta per questo. C'è gente che c'è morta. C'è gente che sta ancora giocandoci. Esatto. Ma io poi guardando questa rassegna di videogiochi di queste due console, mi rendo conto quanto veramente era limitato l'hardware dell'Atari 2006. Perché comunque, per brutti che erano, alcuni erano sicuramente di gran lunga superiori a quelli dell'Atari 2006. Che assolutamente, cioè più di quello che faceva non poteva. Tra l'altro ricordo sempre in un tuo video, Gianluca, hai fatto un homebrew dell'Atari 2006 del Tetris. Sì. Che praticamente le pedine, insomma, come si chiamano, i tetrimini, i tasselli, bravo, i fregnetti, insomma, lì erano tutti quanti dello stesso colore, proprio perché comunque l'hardware non ce la faceva. Non ce la fa, quindi ma d'altronde i colori a che servono? Sono la fantasia. Scusate ragazzi, mi sono distratto mentre, perché stavo ovviamente, ero rapito dai video psichedelici che sono linkati nelle note, e non mi sono accorto se nel frattempo Gianluca ha parlato anche dei fantastici giochi in crocio con i giochi da tavola. Sì, ne hai appena parlato adesso, sì. Ok, lo hai interrotto, hai parlato del video commercial che parla di questo. Allora, quello lo mettiamo nelle note, da vedere, è uno spettacolo, perché c'è questo set ricostruito in un mondo fantasy dove il magone di turno prende la plastichina e la mette sulla tastiera dell'Odyssey 2. È incredibile, il gioco da tavolo continua sul monitor del... Sì, sì. I giochi da tavolo, tra l'altro, erano bellissimi nella parte anche del tavolo. Anche se Gianluca ha detto che nessuno ci capiva niente di come funzionava, però... Probabilmente questa però era materia da Kit Sengoku, il Marco. No, vabbè, ma va bene, perché sai che lo disse. No, ma non c'era, per questo sono proprio basta. Ah, te lo sei strusciato. basta. Allora, Gianluca, altro? No, penso di aver concluso così. Perfetto. Io direi che possiamo un attimo porre un freno, una piccola pausa. Insomma, possiamo andare in giro fuori dalla casa a correre nudi urlando al sole. Per scaricarci la tensione e poi tornare qui. Penso che ci vorranno qualche minuto, 2-3 minuti. Ma no, è il solito brano di mezza puntata che spezza un attimo l'atmosfera, più che altro vi fa rilassare un secondo le orecchie, perché poi andiamo nella seconda parte dove insomma, ci sono altre due console. Mamma mia, è una bella guerra pure qui, una bella botta, come si dice. Allora, altro brano scelto dal mondo dei videogiochi e più precisamente dalla colonna sonora di Half-Life, Diabolic Adrenaline Wither. A voi. Complimenti a Roberto Bertoni per questa scelta fantastica. Grazie, ci domandiamo tutti come mai tutto quello che sceglie Roberto Bertoni è veramente brutto, ma spero insomma che vi abbia se non altro fatto riposare con questo suono di chitarra rock un po' ossessivo compulsiva e sonorità anche elettroniche, quindi insomma vabbè, veramente bello. Però d'altronde è un mostro sacro dei videogiochi, è proprio recente tra l'altro, una notizia esclusiva che è uscita fuori, che nessuno ne aveva mai parlato nella storia, che potrebbe essere che fanno Half-Life 3, ma anche no, ma non ci vede nessuno, proprio neanche nessuno. Ma esatto. Poi dicono che sia stato uno scherzo per introdurre in realtà Portal 3. Insomma, una cosa un po' contorta. Vabbè, cioè, comunque la devono far finita. Sì. Nel senso, perché veramente io penso che Valve e il Viral sono veramente, penso. E il Milan. Anche il Milan. Milan. No, questo è per Bertoni, giusto? Va bene, allora torniamo alla seconda parte. La seconda parte, sentiamo se Giuseppe Scaletta è ferrato. Perché questo qua è la prossima console, è una via di mezzo tra un giocatore di calcio e l'astronave di Capitan Harlock. Questa, che cazzo c'è? Questa la capiscono poi in pochi, no, perché è Emerson Arcadia. Emerson, un giocatore di calcio. Arcadia poteva arrivarci. Arcadia 2001. Insomma, vabbè, se non conoscete l'Arcadia, siete delle sozzerie. È il 2001, vabbè, però no, 2001 è troppo. Vabbè, comunque. Ma che stai a dire, dai? Parliamo. Emerson Arcadia 2001, che tra l'altro si è rendendo fin troppo bella sta console. Non è neanche una console. Non è neanche una console. Che cos'è? Una sveglia. È una radio sveglia con un Pac-Man dentro. Col cucù elettronico. Quando parliamo di Arcadia, dovremmo parlare non di un unico stavo console. Per dire una cosa, ragazzi, che penso che ci avrebbero. Qual è il maschile di Arcadia? Esatto, vabbè, dai. No, dai, vi prego, ragazzi, però iTunes già hanno già cacciato. Per favore, torniamo composti. Esatto. Un po' di censura, un po' di ordine. Ma parliamo di questa costellazione di circa una trentina di iterazioni della stessa console, però che sono nate sotto l'unica stella della tecnologia condivisa, creata da Philips Cygnetics e data in licenza a diversi produttori. Come il 3DO. Ma andiamo con ordine. Ma anche peggio del 3DO, non credo che ci fossero 30 modelli di 3DO. Comunque, dalla suddetta joint venture fra Philips e Cygnetics nacque una piattaforma hardware atta a dimostrare le capacità del chipset Cygnetics 2650 e 2636. Poi, data in licenza a diverse parti che produssero in giro per il mondo una prima ondata di console che, sottolineo, non fanno parte dei cloni dell'Emerson Arcadia. Fra questi vi ritroviamo Interton VC4000, Volt Maze Database, è bello sentire i nomi, Acetronic MPU, Safatron 1000, ITMC MPT, ma che so rapper, molto bello. Scusa Peppe, faccio una precisazione perché si potrebbe creare una confusione, perché dentro di noi c'è la risposta, ma è sbagliata. Se qualcuno si domanda ma come la Philips ha partecipato con due console all'interno della stessa generazione, in teoria sì, ma è vero pure che stiamo parlando di anni molto diversi, perché questo blocco generazionale, secondo la storia, in realtà è, come abbiamo detto, un blocco che parte dal 77 all'82-83, quindi in realtà stiamo parlando di 3 anni dopo, anche di più se non sbaglio, l'uscita dell'Odyssey 2, quindi ecco il perché Philips ripropone una nuova console. Infatti io non sono neanche molto d'accordo su questa suddivisione generazionale, perché insomma è molto molto molto approssimativa. No, praticamente non gli sta bene, però, non mi sta bene chiaramente, però vabbè, continuiamo con l'Arcadia. Bah, qualche tempo dopo questa ondata, la suddetta piattaforma hardware fu migliorata con l'utilizzo del Cygnetics 2637 al posto del 2636, risultando in una nuova ondata di sistemi su licenza. Tutti, è un po' complessa questa storia, però permettetemelo. Tutti basati sullo stesso hardware e che facevano girare gli stessi giochi. Questo gruppo comprendeva l'Ormatus per il computer 2001, Advision Home Arcade, Prestige MPT-03, Telefever e anche l'Arcadia 2001, ufficialmente nell'anno 1980. Ma ci stava l'Orgasmatron anche. L'Orgasmatron, quello c'è. Il Vibratron. Veramente, che servirebbe a... Non mi buttati a casa. Che conosco io, ma comunque vabbè. Mamma mia. Ma posso... Vabbè, sopportatela. Qual è il master hardware, diciamo, la macchina, il prototipo che poi dopo... È questo... No, è il prototipo era perché, no, cioè perché la nota è più famoso era l'utilizzo di so doppio chip. Perché è più famoso l'Arcadia 2001 piuttosto dello Smadatron Fab e Blop? È perché ha avuto più seguito. Okay, no, per sapere. Che c'è, tra l'altro, c'hai gli stessi controlli dell'Intellivision. Ma probabilmente anche perché è stato quello sul mercato americano piuttosto. Ah, ecco, ecco qua. La sua versione italiana, che non se la filava nessuno se non noi italiani, la Gucci, una piccola frazione. Ricordati che l'Italia è uscita con il nome maschile, quindi è un problema. Mi sa che l'Arcadia 2000 era più scarso l'Arcadia 2001. Perché c'aveva, sì, perché praticamente non leggeva i giochi su ROM più grandi di 8 kilobyte. Qui invece se prendevi il coso della Cina, non so di dove, magari ti funzionavano tutti. E vabbè, perché poi ognuno metteva del suo, faceva delle versioni aggiornate, esatto. Ma comunque tutti questi sistemi che comunque erano basati sui chip 2650 e 2637 compatibili sul versante software fra di loro, se non fosse che i slot per le cartucce non sono tutti identici, quindi dividono i cloni in quattro gruppi di console dei giochi intercambiabili, quattro macro gruppi. Il gruppo dell'Emerson Arcadia 2001 comprendeva tra l'altro il Bandai Arcadia, distribuito in Giappone, così come il Leonardo della gloriosa GIG Electronics, che è arrivata in Italia con questo nome. Dai, con questo non so fantastico cosa, nome. Grande... Nei link c'è la foto del modello italiano con tetto di confezione Leonardo. No, allora a questo punto io chiedo veramente qualsiasi uno degli ascoltatori, padri, nonni, nipoti, cugini e roba del genere, se qualcuno ha avuto un Leonardo dentro casa. Io l'ho visto, ci ho giocato, no, però comunque no. Sì, perché andammo a fare una fiera con un sito e un ragazzo lo portò il GIG Leonardo. Non sapevamo neanche che cosa fosse, tra l'altro, cioè, una console compatibile con, cioè, magari qualcosa, se gli davi 30 euro te la dava pure, insomma. Ma non so, lo conosci del tipo che è un collezionista, penso che stava bene sotto il tavolo a reggere lo tenere. Sì, esatto. Il genio dei videogames era lo slogan, giustamente, no, Leonardo. Vai, no. Va. No, comunque l'invito, ovviamente, se qualcuno c'ha foto, cose. Un mannate, video che lo mettiamo sul nostro canale YouTube. Che... Il video è introvabile, credo, perché ho cercato, ma non. Quindi dobbiamo invitare qualcuno a farlo. Sì, sì, che avete gente che è Leonardo a casa, non la tartaruga ninja. Neanche il cognato, Leonardo, quindi il computer, Leonardo. Infatti, la console. Bah, comunque, la caratteristica peculiare dell'Arcadia 2001, limitiamoci a parlare del suo esponente più noto, è la dimensione. Marco, non so che già subito con la mente andrai ad altri tipi. Ma quello dopo, quando parlerai delle porte posteriori. È vero, per delle retroporte. Esatto. Più piccola dei concorrenti contemporanei, era stata infatti pensata per essere collegata a un TV portatile, come quelli su barche, veicoli vari, roulotte, camper, eccetera, eccetera, alimentata a 12 volt. Da sottolineare comunque quanto i televisori portatili fossero rari nei primi anni 80, quindi la genialità di produrre una console avanti, da affiancare a un televisore portatile quando i televisori portatili erano rari come qualcosa che, insomma, non come mi viene una in cosa rara. In questo beh, c'è gente che oggigiorno produce dei programmi 3D quando non ci sono ancora televisioni 3D in giro, quindi sono pochissime. Ecco, è vero. La lungimiranza non è l'avantezza. L'avantezza è una peculiarità dei geni, infatti si chiama Leonardo, la versione italiana. Però vengono compresi dopo tre secoli, il problema è quello. Bobo. I pad ricordavano parecchio quelli dell'Intellivision. Con la classica pulsantiera a 12 diciamo bottoni, anche uguali, e poi quelle cose tonde lì, simil di pad, esatto, sui quali però c'è un per mezzo di un foro, c'è un foro e per mezzo del quale era possibile montare il bastoncino a modo di joystick, come più tardi fu fatto anche su Sega Master System, ad esempio, fra l'altro, tanto per infatti per nominare Sega. Molti giochi avevano annessa la classica cover in poliestere da sovrapporre al controller. È uguale sulle all'Intellivision, console, poi, dai, non è che... Praticamente, sulla console poi c'erano, questo non lo ricordo dell'Intellivision, c'erano i tasti Power, Start, Reset, Option e Select. Erano anche questi dell'Intellivision. Beh, adesso stai troppo. Beh, non ce lo ricordiamo. Caratteristiche tecniche dure e pure. Allora, processore principale Cygnetix 2650 con CPU a 3,58 MHz. Doveva essere un bel processore di merda, visto che andava una frequenza tre volte più veloce, insomma. Bah. Alcuni portavano una variante col 2650A, che non aggiungeva moltissimo, però dici virtù. Comunque, RAM 512 bytes, nessuna ROM. Non so tecnicamente come questo sia possibile, o è un'omissione di dato, non credo. Il display poteva visualizzare 128x208 o 128x104 a 8 colori. Il display, il controllo del display era il Signetics 2637, come abbiamo già detto. E poi c'aveva i classici orpelli per il sonoro, c'aveva un beeper e un singolo canale per il rumore. Un gioco si chiama Escape, 4... che veramente, ragazzi, ma quanto 4 è brutto. 4 sprite indipendenti monocromatici, ognuno poteva avere un singolo colore contemporaneamente su schermo. E abbiamo già nominato i keypads da 12 bottoni con alcune varianti. La versione Emerson della console, appunto, arrivò sul mercato americano praticamente già morta, essendo uscito quasi in contemporanea, scatola, contemporanea con la scatola, porca puttana che puzza, no, come il gatto di quello, come si chiama, l'esperimento scientifico, vabbè, quello là. Essendo uscito quasi in contemporanea con l'Atari 5002 e con il ColecoVision, quindi era un suicidio preannunciato. Inoltre vi è il solito problema delle licenze software monopolizzate da Atari, quello è la costante, diciamo, delle macchine non Atari nel periodo in cui vi erano le macchine Atari sul mercato. Facile, no? Non ci dilunghiamo troppo su questa costellazione di console poco riuscite, però due curiosità le riportiamo. Inizialmente venduta al fantomatico prezzo di $199, Marco, che al cambio più o meno senza pensieri, però, perché costa un po' di meno, però sì, senza elettrodomestici. Credo che, tenendo come riferimento quello, anche se eravamo più avanti negli anni, quello che ha detto poco fa Gianluca, eravamo sui $600-700 attuali, penso, Però già dopo solo un anno dalla sua introduzione si trovava nei cestoni a $99, giustamente. Chissà com'è. Poi, altra curiosità, ultima curiosità, una volta Emerson se ne uscì con un annuncio evidentemente fasullo, dove proclamava che l'Arcadia 2001 avesse 24K di RAM. Boom! Ricordo che di RAM ne aveva 512 bytes, e questo fu giustamente interpretato come una sparata di cattivo gusto, tanto da minare l'intera reputazione di Emerson fino alla fine. Giustamente. Del gioco. Beh, c'è sta, no? Insomma, sei un coglione. Esatto. Vai Gianluca! Allora, fermi tutti. Hardware approssimativo. Insomma, diciamo che c'è de meglio su sta generazione. I giochi sono, e adesso ce ne parlerà ovviamente Gianluca, sono fatti per farti perdere la vista. Cioè, alcuni in particolare, cioè, tipo, c'è il verde fluo. No, ma c'è, che ne so, i giochi con lo sfondo bianco perché era una grossa novità, e gli sprite gialli, cioè veramente, ragazzi, roba da verde e rosso che si incrociano. Penso che l'associazione oftalmica mondiale li ha querelati, no, o abbia esultato magari, perché crimini verso l'umanità anche. Sì, va bene Luca, vai. Però il tennis aveva le animazioni. Vabbè, no, ma le animazioni ci stavano, brutte, ma ci stavano. Ma aveva 512 byte, che erano 4 volte quello del VCS, quindi magari qualcosina riuscivano ad infilarci. Ti ho detto, VCS rimane un mistero, un grande amore, ma allo stesso tempo un mistero. Assolutamente. Qui sull'Emerson Arcadia, o comunque su questa galassia di console con questo hardware in comune, pensate un po', si stava peggio che sulle altre console di cui abbiamo già parlato. Perché anche qua terze parti non le hanno considerate quasi minimamente, e i giochi li programmavano semplicemente questi produttori che preparavano queste console personalizzate a seconda del territorio e ci mettevano magari qualche giochino. La Philips ebbe una grandissima pensata, cioè disse: vabbè, prendiamo tutti i grandi classici che vendono moltissimo su VCS e li facciamo meglio per la nostra console. Piratati. Sì, esatto. Geni! Peccato che la Atari avesse già vinto la causa con la Philips per quel gioco tipo Pac-Man, e quindi nel momento in cui l'Emerson Arcadia e le altre console arrivavano con questi giochi, c'era già bella tutta tutto il meccanismo di protezione della Atari per impedire che questi arrivassero sul mercato con questi giochi. Infatti la Philips ha dovuto ritirare immediatamente, erano pure cioè, recidivi questi. Erano pure recidivi, e quindi alla fine la Philips non ha potuto pubblicare questi giochi, li ha trasformati, sono venuti dei giochi abbastanza inutili, di merda, termine tecnico, esattamente, okay. La beffa è stata che sulle altre console minori, sempre con lo stesso hardware, li hanno pubblicati, Perché fuori dall'America questa giurisprudenza evidentemente non valeva, e quindi ancora no, esatto. Esatto. Quindi tipo ci sta Robot Killer, di cui trovate il link tra l'altro nel documento, che era un clone di Robotron, che era fatto di Berserk, scusate, che era fatto effettivamente molto bene. E oppure l'immancabile clone di Pac-Man, che si chiamava Nibbleman o Gobbler a seconda dell'azienda che lo commercializzava, e anche questo era fatto decisamente meglio di quell'Atari, ma come sappiamo ci voleva poco. E giochi ce ne sono stati 54 in totale, tra tutte le piattaforme compatibili. Non è manco malaccio, Non è malaccio, però appunto è difficile che come diceva Giuseppe, erano divisi in 4 macro categorie, quindi poi alla fine non tutte le console potevano leggere tutti i giochi. Conversioni di coin. E anche il 3D Sucker. Il 3D Sucker era scandaloso, ragazzi, perché era il prototipo di FIFA, quello cioè il verde assassino. A parte il verde che ti buca la retina, ma c'è la versione, cioè la visuale isometrica, quindi sì. Era avanti tutto sommato. Era avanti, però davvero era terrificante da giocare. E essere avanti significa anche essere pronti a essere inculati. Esatto. Il problema è anche quello. Qualche volta è meglio stare io non riesco a guardare, cioè non riesco a guardare questo schermo. Quindi anche qua, poi, come conversioni, sempre per la politica Atari di prendere tutte le esclusive, c'è quasi niente. Ci sta appunto Funky Fish, c'è Crazy Climber, Playads. Che Funky Fish, scusa, è un Pac-Man con la coda che fa finta di essere un pesce. Okay. Molto bello, insomma. Sì. Ma io ho il potere della sintesi, e quindi anche che l'hai appresa dopo 3 stagioni, però diciamo. Ma puoi ancora migliorare tra l'altro. No, sta andando bene, sono contento io di Giuseppe. Bravo Giuseppe, bravo. Vabbè, fate parlare a lui, dobbiamo parlare di me. E quindi niente, conversioni quindi di giochi di cui nessuno sentiva il bisogno di avere nel salotto, insomma. E per quanto riguarda l'Homebrew, anche qua pochissima roba. Due titoli magari vale la pena di citare, che sono Tetris e Frogger, due conversioni tra l'altro neanche molto originali, poi sì, ma se vedi il Frogger rispetto a quello dell'Odyssey 2, per dire, è molto peggiore questo qua, cioè, veramente no, davvero terrificante. Non c'è neanche un video su YouTube, quindi a testimonianza dell'amore provato dai fan per la console. Allora, chi ha avuto l'Emerson Arcadia 2001 nella versione magari italiana, il Leonardo della... So che ci state ascoltando, perché non ci potete vedere, okay. Avete perso abbiamo la vista, capito, però perché, abbiamo capito perché non ci manderete mai una foto, perché ma forse nei forum di oggi che spuntano lì con i guanti bianchi lì che portano. No, perché in realtà ci sono console di cui la gente si vergogna di aver capito. Però insomma, se avete avuto a che fare con questa macchina, a noi ci fa veramente piacere, fatecelo sapere, perché insomma veramente poca roba si è trovata, anche uno come Gianluca che di solito veramente... Mandateci materiale, noi lo pubblicheremo e vi faremo diventare famosi, voi e l'Arcadia. Toh, che sembra la bestemmia però vi faremo diventare famosi, continuiamo con questa cosa, non è colpa mia, si chiama Arcadia. E dicevo, anche Gianluca che insomma di solito riesce a scovare cose in ogni dove, insomma ha trovato delle difficoltà, che significa che praticamente anche da un punto di vista storico, e questo rimane sempre un peccato, ricordatevelo, non c'è veramente molto materiale, che chiaramente se non è stato un grande successo dal punto di vista commerciale. Vi ricordo a proposito, dato che parliamo insomma di archeologia videoludica, la puntata precedente a questa, lo speciale sulla preservazione videoludica, parliamo anche di aspetti correlati a questo, al fatto che comunque poi purtroppo non tutto il materiale sarà veramente archiviato, e questo poi è un po' una sorta di peccato, di piccolo crimine, chiamiamolo così, perché purtroppo non sarà possibile recuperare cose, alcune cose sono già andate perdute probabilmente per sempre, altre perché magari c'è disattenzione, altre perché magari c'è svogliatezza, o perché quello si ritrova la console Leonardo dentro casa e dice, ma non so neanche che cosa sia. Ma però lo metto sotto il mobile, lo metto, me lo tiene dritto. E andiamo avanti alla prossima console, perché Marco qui anche qui sull'Arcadia, c'è qualche filmatino che forse linkeremo, tipo il 3D Soccer che vi brucia la retina. Che brucia la retina, quello va. Però quello potete chiedere l'accompagno. Grazie a archeologia videoludica. Esatto. Quanta gente ha potuto prendere la pensione di invalidità civile grazie all'Arcadia 2001. Andiamo alla prossima console, la chiamiamo console? Qui è un po' particolare, perché è che se non c'era materiale per l'arcade, figuriamoci per questo. E parliamo dell'Epoch Game Pocket, che è 1984, però è comunque interessante parlarne, perché comunque è un oggetto comunque particolare, perché come dice il nome scaletta. Era Pocket. È pocket, molto pocket. Molto sì, pocket. Come il famoso cioccolatino al caffè. E non volevo dirlo, tu invece. Vabbè, allora, dell'Epoch Game Pocket Computer, il cui nomignolo è Pokécon, è rimasto nella storia del retro gaming e del retro computing in generale veramente poco. Per questo vale la pena riscoprire questo piccolo gioiello fra i portatili, certamente non privo di difetti, ma anche con degli spunti veramente interessanti. E come vedremo, anche avveniristici se paragonati alle successive incarnazioni handheld. Il Game Pocket. Incarnazioni? No, che sono già lui lo dici tu. No, lo devi dire lui. Handheld. Vabbè, andiamo avanti. Ciao. Il Game Pocket fu rilasciato in Giappone. Tutti hanno capito almeno qua. Il Game Pocket fu rilasciato in Giappone nel 1984 da Epoch, un marchio che i videogiocatori più nippofili hanno imparato ad apprezzare per lo più come software house, anche se l'azienda nacque nel 1958 ed è ricordata oggigiorno più per i franchise dei giochi di Doraemon, per quella cosa assurda del Barcode Butler, quel portatile geniale che generava i personaggi dei giochi, ambienti e nemici basandosi sulla scansione dei codici a barre di merendine, preservativi e quanti. Chi più ne è, più ne è. Sono giapponesi, ricordate che ci hanno avuto una bomba nucleare sulla testa. Ma scusa, ma quando è arrivato in Italia avevo ricordato questo coso, questo barcode. Sì, purtroppo me l'hai ricordato adesso, grazie. Ma chi le importava? Forse la GIG. Grazie, scaletta, grazie. Chi le importava? Vado. Ve l'ho ricordato, vero? Vi ho fatto questo grande. Ma comunque, tornando alla console, lo metterei nel noto dell'episodio, giusto? E infatti è messo. Sì. Lo vedi. Cosa? Là, lassù. Laggiù, okay. Là sotto, il barcode. Okay. La console aveva uno schermo LCD con risoluzione di 75x64 pixel a due tonalità di grigio e poteva generare grafica di livello più o meno assimilabile a quella dell'Atari 2006, tanto per citare una console a caso che abbiamo citato poche volte, infatti, in questa puntata. Il microprocessore era un NEC a 6 MHz e le cartucce erano da 16K. Purtroppo la macchina aveva diverse pecche, tra cui di primo acchito il fattore estetico. Il design faceva letteralmente schifo. Bella zozzeria. Il che rendeva tra l'altro il Pokécon difficile da impugnare, soprattutto per i bambini. Vedi, bello. Poco portatile, perché non comprarsi? Perché non comprare? Ma chissà quanto costava. Addirittura è possibile. Addirittura è possibile supporre che fu disegnato davvero in fretta, perché in alcuni dettagli è veramente approssimativo. Dobbiamo farlo uscire così. Ah, ma dai, ok, fa lo stesso. Ma sì, sì, cazzo. Ma di mattone, ma sì, le edilizie, cosa. Fallo uscire così. Esatto. Infatti la console fu un insuccesso clamoroso in Giappone, dove purtroppo restò confinata in quella terra, purtroppo. Funzionava con 4 pile stilo e la luminosità dello schermo poteva essere regolata da giocatore. Forse meglio la luminosità del contrasto. Probabilmente sì, infatti. Ma approfondiremo. A parte che visionando i video che, insomma, leghiamo le note, il risultato, cioè, non era proprio malaccio dal punto di vista del gioco, almeno. Pensate a cosa poteva voler dire portare sempre con sé un videogioco con cartucce intercambiabili, con lo schermo LCD, effetti avanzati come lo scrolling. Insomma, non era lo schiacciapensieri, ma ci si assomigliava classico. Però è la versione più evoluta, ma indietro nel tempo, dello schiacciapensieri. Pensate un po'. No, dello schiacciapensieri c'era il fatto che lo schermo era cristalli liquidi, no? Però in realtà poi alla fine, cioè, è uno sprite veri e propri, non è che c'aveva le posizioni predeterminate, insomma. Credo. Vabbè, noi ci soffermiamo però sul confronto con altri due dispositivi, visto che stiamo cominciando a fare paragoni. Il primo portatile a giochi intercambiabili in assoluto della storia, che è il Microvision della Milton Bradley Company, che è datato 1979. Andate a guardare anche lì nelle note, che ovviamente mostrava tutti i limiti dell'anno in cui è stato proposto sul mercato. Anche questo con cartucce interscambiabili, è stato il primo dispositivo LCD a poter fare questa cosa. Interessante ricordare che fu sviluppato dallo stesso Jay Smith, che qualche anno dopo realizzò il Vectrex, tanto per ricollegarci ad un paio di puntate or sono. Infatti, corsi e ricorsi come sempre nelle nostre puntate. L'altra bestia con la quale lo mettiamo a confronto è ovviamente il Game Boy, con il quale possiamo trovare diverse analogie. Hai fatto dei belli zoompi anche generazionali, Ma guarda, ascolta, possiamo fare delle analogie anche migliorative, nonostante il portatile di Nintendo sia uscito 5 anni dopo, neanche poi tantissimo. Ecco, è interessante che guardiate insieme a me il grafico che vi ho linkato e che è a fondo scaletta in rosso, corposo, corpo 200. Non ti puoi sbagliare, Pizzi? Non ti puoi sbagliare, assolutamente. Quello che mette a confronto, sì, adesso lo vediamo. Che mette a confronto queste tre console, scrolla dalla pagina, più un'altra che ci lascia piuttosto indifferenti, che è il Pokémon Mini, se si può chiamare una console. Quindi queste tre console, che sono il Microvision, Game Pocket Computer e Game Boy, che notando che su alcune caratteristiche il Game Pocket scalza addirittura il Game Boy con i dovuti con le dovute virgolette, diciamo, sulla velocità del processore, che certo sappiamo che da solo non è un parametro sufficiente, però anche perché 6 MHz, hai detto? 6 kHz? Eh sì. Che alla fine per l'epoca 4,19 era un bel però voglio dire, cioè, nel senso, era bello pompato. C'è un processore che fa un ciclo così veloce, ma poi dopo alla fine per farci esatto, cosa, cioè, infatti, nel senso boh. Sulla quantità di ROM, che è di 4K a fronte dei 256 byte del Game Boy, incredibile. E ovviamente sulla durata delle batterie, che a fronte delle 15 ore nintendiane, a parità di pile, perché funzionavano entrambi con 4 pile stilo, assicuravano ben più di 70 ore di autonomia. Quindi tu mettevi 4 pile e ti scordavi. Ma perché allora è fallita? Perché? Per settimana. Perché il design era quello che era, aveva tanti giochi, ma ci dirà un po'. Sì, anche se prima di arrivare ai giochi facciamo un attimo un piccolissimo ragionamento, perché poi, come abbiamo detto, la comparazione hardware nuda e cruda, poi alla fine, come ci ha insegnato poi anche la storia, insomma, vuol dire fino a un certo punto, perché magari, ecco, dici vabbè, quello c'aveva più RAM, quello ce n'aveva di meno, però poi magari la cartuccia di per sé del Game Boy integrava magari tutto ciò che era volutamente mancante all'interno del Game Boy stesso. Ma io non sono mai stato neanche un fan del Game Boy, però chiaramente è interessante il fatto che questa console, l'Epoch, insomma, ci ha provato, ha diciamo aperto forse un filone per certi versi, molto più del Microvision, che veramente era inguardabile, cioè, nel senso, ma anche ingiocabile, perché veramente con un monitor assolutamente microscopico, penso che giusto dei pazzi, forse un ciclope ci poteva giocare, che lo guardavi con occhio solo da vicino. È interessante comunque questa macchinetta, anche se in effetti pure questa aveva i suoi bei limiti, anche qui il monitor era quello che era, probabilmente insomma ci potevi giocare anche soltanto di giorno, non credo ci fosse retroilluminazione, ma non è una cosa, insomma, è abbastanza affascinante vedere i prototipi di quello che poi noi ora oggi magari diamo per scontati, insomma, no? Prototipi di cose superate, no? Perché poi se tu pensi a console portatili come quello dell'Atari, non so se ve lo ricordate, come si chiamava? Lynx. Insomma, voglio dire, a livello di dimensioni quasi ci stiamo, eh? Cioè, guarda, ci sta un video proprio di questo autore che ha fatto questa pagina che ha linkato Giuseppe, che ha messo di fianco al Game Pocket Computer un Game Boy e un Lynx. Come larghezza, questo qui è grosso quanto il Lynx e il Game Boy insieme. è qualcosa di spaventoso. Poi vabbè, come per l'altro lato è più piccolino, ma comunque più grande di un Lynx e anche di un Game Boy messi insieme. Vabbè, però tu devi sempre considerare la differenza generazionale, perché tu sì però cioè, Peppe prima ha detto vabbè, tra questo e il Game Boy ci passano 5 anni, cioè possono essere altri tanti, nell'ambito della tecnologia sono generazioni, cioè nel senso ma più che altro so cicli storici proprio ben diversi. Beh, è più o meno mezzo ciclo della generazione che sta per concludersi di console. Lo so, però l'impronta tecnologica, tu considera che sì, erano anni di rincorsa. Capito, bravo, esatto, poi era un periodo di grande sviluppo quello. Poi noi adesso le console se le siamo tenute per 7-8 anni, ma perché quella è una scelta commerciale, non è una scelta tecnologica, no? Hanno messo le cose dietro le sole. Esatto, nel senso certo. E poi è stata una scelta anche magari voluta pure da questioni tecniche. Comunque, so che cosa ne pensate, Marco. Vabbè, dopo dici la tua, perché tanto c'hai i tuoi sicuramente Link. Sì, c'è qualche simpatico. Però insomma, interessantissimo. E vediamo un po' che tipo di giochi ci stavano allora, Gianluca, su questa crocco. Guarda, qui è veramente il caso limite. Ci sono 5 giochi per Epoch Game Pocket. 5. Che poi è Epoch. No. Epoch. Può essere Epoch, no? Dico, là. Può essere, no? Dico. Ma in inglese non si sa mai come si pronuncia, quindi in giapponese vai. E quindi tra l'altro la Epochu aveva anche previsto 2 applicazioni interne alla macchina, perché accendendo la console senza cartuccia inserita usciva il famoso gioco del 15 che citava Simone, che però era un gioco del 12 in questo caso, perché le caselle erano di meno, e, però sempre la stessa meccanica, insomma. Meccanismo, e poi c'era un programmino. Sì. E poi c'era un programmino che ti faceva disegnare, ma veramente dovevi mettere i pixel uno per uno. Del resto, con la risoluzione di 75x64 si faceva presto. E nient'altro, quindi, come giochi inclusi. È fantastico, la fantastica demo tech del vortice che si azionava. Sì, è impressionante. Demo tech. Sì. Impressionantissimo. Metteremo anche un video. Sì, anch'io, poi veramente demo tech. Che di solito serve per far vedere quali sono le potenzialità e poi vedere quella zozzeria. Lo spaghetto, esatto. Che poi sai, sapete che mi ricordava il fatto, l'applicazione quella per disegnare, ricordate c'erano quelle lavagne magiche? Bambini. Esatto, quelle per i bambini, quelle ancora, con le due rotelle. Con le manopole, sì. La lavagna magica. Fantastica. Niente, lo volevo dire. Bello. Bel ricordo. Veramente. L'aggiungiamo alla sezione dei traumi, esatto, provocati ai videogiochi. Ma io ce l'avevo. Che non erano manco videogiochi. Niente. Poi qui ci sta anche il Mahjong, che è praticamente un gioco classicissimo orientale, dove c'erano delle tessere da combinare, che avevano lo stesso, bisognava combinare tessere con lo stesso disegno. Peccato che su un display del genere, insomma, capirci qualche cosa. Sicuramente riferivano per un pixel, così, esattamente, no, proprio letteralmente per un pixel. Quindi, il 2 di denari e il 7 di spade si capiscono perfettamente. Sì, infatti. Poi un altro grande titolo era il Reversi, ovvero un clone di Otello, che in Giappone è un gioco popolarissimo che i bambini fanno sempre, e in cui bisogna sempre, c'è la scacchiera con tessere con pezzi tipo dama bianchi e neri da combinare secondo le regole del gioco, insomma non proprio il massimo della complessità, così come il Sokoban, altro videogioco visto in mille forme, in cui bisognava spostare dei blocchi in varie parti del livello per avanzare tra quelli 50 presenti. E sulla stessa scia c'è anche Block Maze, che è un po' Pac-Man, un po' sempre Sokoban, in cui bisogna portare agli angoli dello schermo dei pezzi, bisogna fare attenzione a vari pericoli, nemici, insomma, veramente pochissima roba. Il fuori classe, se così vogliamo chiamare, della console è Astro Bomber, che è la conversione, quindi prestigiosissima, di un titolo di un'altra console della Epoch, chiamata Cassette, ora mi sfugge il nome, però insomma una console da salotto che non si filò assolutamente nessuno e che tuttavia venne riproposto su questa, in questa versione portatile che è leggermente più interessante degli altri. In pratica è uno sparatutto a scorrimento orizzontale, molto simile sempre a Super Cobra Scramble, quindi ci sono degli oggetti da distruggere sulla parte del terreno del livello di gioco e poi altri nemici in movimento nello spazio vuoto. Cassette Vision. Cassette Vision, esatto, esatto. E c'è anche un fantastico video nelle note di Astro Bomber, così i nostri amici possono vedere lo scrolling. Esatto, esatto. Quindi c'era questa pessima console, che pure questa qua è rimasta nella memoria di pochissime persone. Noi siamo arrivati affascinati da un tizio che sta cercando di mettere le batterie dentro uno di questi dispositivi portatili da 10 minuti. Sta cercando di mettere le batterie e non ci riesce. Ci sta facendo un video su YouTube. È un genio, ecco, ve lo linko così tanto per. Una maniera diversa di fare il retro gaming, diciamo. Ancora a mettere le batterie. Sì, sta ancora qui. Per più retro bestemmia, penso che sta a fare, perché non ci riesce. Comunque, vabbè. Scusa Luca. Sì. No, purtroppo anche qua sappiamo che so presto, perché non c'è veramente niente da dire su questa console. Però allora, a questo punto, se storicamente insomma questa cosa insomma vi dà un po' fastidio, perché pensate che questa sia una puntata riempitiva, insomma in realtà non lo è, noi l'abbiamo pensata con grande cognizione storica, ma se dovete lamentarvi, sam82 @gmail.com, chiaramente potete mandare liberamente le vostre insulti mail, di ogni ma andiamo a Marco, che Marco giustamente dicevo, giustamente detto, prova a cercare qualche cosa l'altro su questa merda. Niente, però sull'Epoch può essere sull'Epoch qualcosa. Non c'è una cippa. Allora, innanzitutto manco l'Epoch, c'è sta niente. No, cioè che se vuoi ti introduco nel tuo angolo. Io ti posso ancora è presto. Io direi che è possiamo vedere al volo il secondo link. Lo possiamo mettere al massimo come volume. Attenzione, è l'intro ipnotico della tech demo. Ah, sì, ok. 30 secondi di 1 minuto e 20 di tech demo. Cioè, bellissimo. Cioè, ma va ascoltata a volume massimo questa. Sì, lo dovete sentire col volume alto, perché poi diventate stupidi. Esatto. E un probabilmente... minuto e 20 c'è gente che ha perso il senno. Questo... Quindi fermatevi intorno a noi. E anche il seno. Cioè, sì. Sono diventati uomini, infatti. Vabbè, io direi basta, insomma, basta, okay, grazie basta, Marco, grazie. Basta. No, questa è proprio una cosa che volevo farvi vedere perché è bella la tech. No, ma lo sai che gli ascoltatori vogliono bene per questo. Ho trovato un'altra cosa che non si sa cosa sia in realtà, però no, che cosa ho cliccato? No, forse questo già ci sei arrivato. Scusate, questi sono i problemi della diretta. Eccolo qui, l'Epoch, vedete il commercial dell'Epoch Man, c'è la versione penso più schifosa e brutta, io non lo so. No, più grossa però. Ma che più grossa? Di Pac-Man. C'è una mano, guardalo. Ah no, è più piccolo, è vero. Questo è proprio schiaccio pensieri, questo è il prototipo. No, veramente. Questo è proprio un... Tra l'altro ho letto che comunque l'Epoch è stata una notevole produttrice di giocattoli. No, quello lì era praticamente se qualcuno ci ha da dire qualcosa, ma questo che cazzo ne sa del Giappone, sappiate che Gianluca Santillo sa del Giappone, quindi... sì ha i suoi motivi per sapere del Giappone, motivi per cui penso che gente si strapperebbe i capelli, quindi soprattutto Nino Nishida, sappilo. Motivi familiari, diciamo. Ti invidiamo, stai invidiando, anche se non ho ancora capito il perché, ma lui ti odia in questo. Quindi sì, va bene. Okay. Allora, a questo punto. Io scusami, l'ultima cosa, per favore, permettimela. Guarda il video nelle note che ho appena linkato, dove oltre al nuovo all'intro psichedelico, è una prima parte totalmente fuori fuoco. Si vede il tuo fantastico gioco del 15, ma si vede anche. Questo è il video che stavo vedendo io prima, sì. Ah, perfetto, ecco. Demo Homebrew, dove si vede una schermata di 5 secondi riprodotta di Super Mario Land, fatta da questo homebrewer. Che poi è morto perché a forza di guardare le cose così. Dice che minuto, forse. Si è morto, c'è sinusoidale. Che minuto? Incredibile. Al minuto 10 e ammazza tutta sta roba. Ci dobbiamo vedere prima da andare a sto pezzo. Sì, ma dura 3 secondi questo quadro che lui ha realizzato. 10 e 40, però, ha perso 18 dioptrie. Ah, era questo lo stesso video in cui si vedevano a confronto. Io non ero arrivato, non mi ero spinto fino alla fine dalla paura. Sì. Effettivamente è grande quanto il Lynx e il Gamepad assieme. Esatto, 1,40 alla fine si vedesse cose, sono enormi. Complimenti, e facciamo una colletta e fai comprare una videocamera con l'autofocus a questo tizio. Vi invito ad andare a cercare, tra l'altro recentemente non so dove qualcuno ha linkato il remake Homebrew su Atari 2006 di Super Mario, quindi insomma del primo Flickera un casino. Sì, sì. No, non Flickera, chiaramente, cioè, anzi, lo sprite è anche ben definito, gigante, esatto, è anche ben definito. Bravo, l'hai visto anche tu allora. Però poi ovviamente sì, lo scenario è assolutamente minimale, nei limiti di, cioè penso che tutte le risorse sono sprite, sforzi insomma. Comunque apprezzabile e lodevole come al solito questo tipo di cose. Ma io direi, Gianluca, abbiamo finito? Sì, Giuseppe, abbiamo finito? Io la rivaluto, sì sì, l'ho finito, però mi piacerebbe avere un pezzo di Epoch. Sì, è più uno sfizio, io penso che no. E il motivo per cui non ho mai avuto un Game Boy è il fatto che volevi l'Epoch. Volevo l'Epoch. No, in realtà è il fatto esatto. Il Microvision dei display non retroilluminati per me è sempre stato un limite, ma proprio poi io insomma già non so una faina di mio, quindi mi generavano fastidio e problemi. E non potevi prendere il Game Boy, è troppo Giappone. Troppo Giappone, l'hai detto proprio bene. E allora, a questo punto io direi che andiamo alla rubrica finale, anche se un po' l'abbiamo sparpagliata all'interno di questa puntata. Mo c'è il grosso e poi dopo andiamo alla posta. Quindi vedete, insomma, la puntata siamo stati anche abbastanza asciutti, anche perché veramente non c'era un cazzo da dire. Grazie Rob, grazie Roberto, grazie Roberto. Sempre, sempre il pubblico ti amerà e ti loderà. E ti lo verrà per tutta la vita. Kittas in Google. Kittas in Google. Dunque, dicevamo che in questa rubrica c'è un po' di tutto. Cioè, qui abbiamo trattato un po' la feccia del videogioco. Ma io ho trovato la feccia della feccia del videogioco, cioè quello che praticamente non vale neanche la pena ricordare. Io invece no, sto lì a farvelo ricordare. Hai dovuto un tigne. Certo. Allora, se tutti quanti. Tutti noi, appunto, clicchiamo sul primo link che verte assolutamente sul VTech Creative Vision o VTech, non so come si pronuncia, che è del 1982, c'è una carrellata dei loro giochi dove possiamo giocare tranquillamente a indovina qual è l'originale, tipo questo a occhio e croce sembra un Mario Bros, eh sì, eh? Orientativamente, ma occhio e croce Mario Bros con un bastone in mano, questo il secondo non riesco Defender. Ma adesso non mi viene il titolo, ma sì, Defender. Probabilmente esatto. Questo è bellissimo, c'è un video dopo su questo che è stupendo, questo è qualcosa sui sottomarini che forse è originale, questo è il subacqueo, vedete che è uguale a quello di prima soltanto che è sott'acqua, esatto, e Defender subacqueo, tennis. Vabbè, dei giocatori neri soprattutto, ma che console è, neri, cioè è il VTech Creative Vision. Flipper, sì, Flipper è bellissimo, però. Perché parliamo della console Flipper di Flipper, però è bellissimo, guarda, non abbiamo mai parlato di questa Creative Vision, perché dobbiamo parlare perché Creative è bellissimo. Questo invece sembra quasi un quadro rubato da Donkey Kong Jr. Anche questo è stupendo, questo livello qui devi costruire tipo spacca Roberto 15 la fa uno speciale sul Creative Vision. Questo è Locomotion, il clone di Locomotion, e questo è praticamente il Pac-Man con la gallina, che è veramente qualcosa di bruttissimo. Vabbè, io comunque mi sa che l'emulatore Creative Vision è stato programmato da un italiano, perché mi ricordo che su Emuita, sul vecchio sito Emuita, c'era una sorta di cronaca dell'avanzamento della pubblicazione, e se non sbaglio era un italiano che se ne occupava. Sì, infatti noi dovevamo fare questo speciale sul Creative Vision, grazie a Dio l'abbiamo saltato che grazie a Marco è andato a puttane, dove c'era questo massimo esperto del Creative Vision che sarebbe intervenuto in trasmissione, quindi Roberto, sai con chi prendertela. Ma è anche meglio così, secondo me. Io so, il tennis è bello, però vediamo questo altro filmato che sicuramente avrà fatto questa persona. Vai, play, via. Però dovremo percularlo. Questo qui è Sea RC Attack, 34 secondi di filmato. Sempre quello di prima. Bellissimo. Ci si riesce. Questo gioco permette di morire in 30 secondi. Guardate, tre volte. Uno. Vabbè. Sentite, bellissimo. Ma questo è stupendo, quelle cose che galleggiano da tutte le parti e poi muori. Questo è lo scopo del gioco. Plankton. Però in realtà potrebbe anche riuscire a morire un'altra volta in 30 secondi, perché lo scopo è quello, è morire in meno di 30 secondi. Forse ci potrebbe riuscire tre volte in 30 secondi. Scusa, secondo te come si fa a evitare il plankton che ti schianta? Soprattutto che serve sparare, perché non ammazza niente, assolutamente niente. È un gioco. Siccome dopo 10 secondi diventi un cerebro leso. Purtroppo non è che te potevano mandare la patch per internet. Assolutamente no. Comunque, bei momenti di videogioco. E poi questo è un commercial, signori, che riguarda il Coleco Gemini, che è un clone della Atari 2006, ma non solo è un clone della Atari 2006. Andiamoci a guardare il commercial, che è sputoratamente una marchetta per non far comprare l'Atari 2006. Dovete ascoltarcelo. Vabbè, devi sempre considerare che siamo in un audio podcast, non è che voglio comprare l'Atari 2006, ma no, non comprare l'Atari 2006, compra quest'altro che proprio così che, certo, perché ti permette di giocare con i giochi dell'Atari 2006 e il controller è meglio e e ti dà anche $25 in coupon, renditi conto. Ma sì, me lo compro, bravo, bella scelta, dai, bella, figo, amico. Dai, fratello, spacca, cioè, proprio sputtanamente. No, non avete notato la finezza, che è la classe classica scena dei bulli che accompagnano il nerd al negozio. Infatti si danno il 5 tra di loro, non ancora lui, tizio, che gli hanno fatto comprare una merda. Siamo un coglione, abbiamo coglionato ancora una volta. C'è proprio una pubblicità molto molto, che poi lo chiamano Gemini. Gemini. Che essendo un clone. E poi c'è l'Entrex Adventure Vision. Perché che ricorda... Gemini che c'entra con i cloni? Il gemello. Ah, ti manca una parte di cervello dedicata al Gemini. Parliamo invece dell'Entrex anni e anni del Battlestar Galactica, ragazzi. Ma quello è il problema. Entrex Adventure Vision, che già Entrex ricorda molto il Vectrex, non so se tanto però... perché stiamo parlando di console inutili. Scusate, assolutamente. Ma la Entrex ve la ricordate, no? No. Ne abbiamo parlato. Non siete preparati per niente della Entrex, ma questo abbiamo parlato. E anche grazie a questo, no? Questo qui, il primo filmato invece ti fa vedere la grandezza, quindi vedete le manine che giocano. È tipo questo... un mini arcade, un mini Vectrex, in un mini Vectrex. Però possiamo anche magari ci vogliono far vedere pure il gioco dentro, però. No, il gioco dentro c'è un altro filmato, se mi permetti di uscire, li faccio con il secondo filmato che andremo a vedere. Cioè il filmato diciamo in prima persona, chiamiamola così, che poi non riesco a trovare. Eccolo qua, ho trovato, e qui si può vedere meglio. Però questo è giusto per vedere meglio il gioco, perché il filmato successivo invece ci permetterà di vedere dentro proprio la macchina, che è la cosa più stupenda. Vedi? Ah, oddio, ma questo è come quello del Nintendo lì con Virtual Boy. No, che era tutto rosso. Peggio. Ci sono le lame rotanti. Meglio. Vedi com'è il gioco? Perché faceva la cosa, no? La visione stereoscopica, no? Dici? No. Allora, il filmato successivo invece. Vedete, piu, sono orribile, ma il filmato successivo invece... No, guardateveli assolutamente sti link, ragazzi, perché... Viene aperto. Allora, innanzitutto la musica psichedelica, lasciamola stare, perché è la Mega Research, che praticamente è un... non so se un gruppo di pazzoidi che modificano, aprono, fanno, si scoprono. E qui hanno praticamente ricreato il tennis for two con una scatola di plastica. Vabbè, con oscilloscopio. Con oscilloscopio. Ovviamente, perché. E adesso invece si stanno buttando proprio su questa simpaticissima console. Andiamo un pochino avanti il filmato. Questo è il filmato di presentazione in cui ci fanno vedere. Quanto è la bruciante. A 50 secondi parte la cosa rotante. Esatto, a 50 secondi più o meno c'è questo. Vedete, dentro c'è uno specchio rotante su cui 40 LED luminosi rossi proiettano le immagini. E qui viene ricostruita tramite lo specchio rotante. Ed è bellissimo. Cioè, era un'alternativa al monitor vettoriale, in pratica. Sì, tra l'altro si raffreddava da solo. Perché faceva questa cosa, scusa? È così, veramente il LED proietta. No, allora, se c'è qualcuno che mi spiega il funzionamento tecnico e la motivazione di sto coso, ci facciamo un'altra puntata su sto affare. Io credo che i LED fossero sincronizzati allo specchio in qualche modo, in modo che potessero anche, per cui il loro riflesso a un determinato momento, ma perché l'uso di sta tecnica andava, cioè, a posizionarsi è per risparmiare, perché come con 40 LED rotandole sembra che ce ne siano 80, diciamo. Avevano fatto tutti i pixel, sì, però questi qui hanno fatto di meglio, perché praticamente se arrivate al minuto 4:00, cioè al minuto 4, vedete che stanno cercando di ricostruire, ancora non ci sono riusciti, lo stesso con i Lego. Quindi vabbè, questi sono scemi proprio, sono dei pazzi. Ma comunque è un laser quello, non è il LED? No, non sono LED. È un LED, quella la plastichina che è popolarizzato per essere un LED. È un LED bar, vedi? Proprio ci passa il ditino sopra e si accende il LED, vedi? Mortacci. E quella è una cosa molto simpatica, detto, bellissimo. No, queste sono cose da vedere, gli appassionatissimi assolutamente li metteremo su The Ombrew e Nerdudine, proprio, cioè, penso che E quindi niente, quindi vediamo che cosa è. Per quanto riguarda l'Entrex, io direi che possiamo anche smettere qui. Però ho trovato anche qualcosa che riguarda un'altra simpatica console, il Radio Shack Computer, che andiamo a vedere, testè. il Radio Shack Computer è un bellissimo computer, come dice, questo è il commercial. Ci sono dei bambini che dicono: che cosa fa il piccolo Timmy? Programma giochi nel loro tempo libero. Finge di leggere un libro e spinge dei tasti. Giochi. Invece quest'altro gioca a football, muovendosi a destra e a sinistra come un cerebro leso. E poi gioca a Super Pitfall. Vedete qui, e gioca ancora con altri giochi quest'altro ragazzo. Pensate, ai tempi miei ci si faceva le seghe, invece adesso si gioca a questi videogiochi, che è bellissimo. Questo era il commercial di questa simpatica macchina, il Radio Shack, come potete vedere. Ma mi sbaglio, c'era scritta Disney finale? Sì, perché quella era la pubblicità successiva. Ah, ok. Qui. Niente qui. Poi c'è il questa è bellissima. Parlando di portatili, c'è il commercial del Commodore. Attenzione. Ah, questo è il famoso SX64. Ma è bellissima la musica. Questo l'ha linkato recentemente su Archeologia Informatica anche vabbè, sì, questa era la famosa canzone di Commodore, Sì. Commodore sei anche tu, qualcosa del genere. Non si può sentire. No, proprio era storica sta cosa, su. E qui guardate, c'è questa immagine falsa, perché c'era ecco lo schermo del VIC-20 dentro. C'è qualcosa che non va. Ma scusate, la facciamo? Sì, sta sotto. Tu che ne sai, Scaletta, sta sempre sotto. Di un campo di pixel, certo. Sì. Soprattutto una manciata di pixel in faccia. Beh, e che poi, basta direi, però. No, c'è l'ultima cosa, l'ultimo commercial della Texas Instruments. Così abbiamo ha acchiappato tutto. Proprio, ha fatto tutto nel pan fascio. Il TI-99. No, T-99 no, dobbiamo parlare. No, dai, no, non c'è il commercial, è bellissimo. Ma no, ma il commercial lo fai quando parleremo del T-99, dai, non ma mi c'è rifiuto. C'è una persona bellissima. No, ma dobbiamo vederla. No, la riferiamo a rivedere, tanto la gente dimentica. E c'è proprio lui, Bill Cosby, attenzione, che fa la pubblicità del TI, è bellissimo. E sembra convinto. Se tu gli dai soldi si convince di qualsiasi cosa, si chiama attore. È incredibile quanto roba, ecco. Beh, una macchinetta non niente male, eh. No, assolutamente non niente male, ma io non la vorrei a casa, perché ho paura che possa prendere il controllo di tutti gli elettrodomestici. Perché hai paura che ti spunti il Bill Cosby, comincio a dire. Oh. Oppure che se hanno Texana tira fuori la pistola e spara. This is the one, mi ricorda il film di Lynch. Grazie Marco per questa rubrica. Grazie di fantastica esiste. E a questo punto, in maniera molto garbata e non vedendo l'ora, insomma, di chiudere questo ok, allora di andarsene a fangoogle questo inutile episodio, ce ne andiamo tutti zitti quanti su quel bar su Mele Island. Allora, e qui mi viene incontro, fate un po' a testa, Ma ti vengo incontro subito io, perché vorrei dirti che mentre stiamo registrando, ho postato sulla pagina Facebook il fatto che stiamo registrando, e abbiamo già i nostri fan che ci stanno rimpinzando di improperi. Ah, addirittura improperi. Quindi c'è il nostro collega, sì, perché giustamente ho scritto: vi fa piacere sapere che stiamo registrando, rimpinzateci di improperi. Giustamente ci rimpinzano. Come andare con le dita negli occhi. E quindi c'è il nostro carissimo collega Stefano Paganini che dice: contaci. E poi Diego Inserauto che dice: solo se sparate robe anti-nintendiane come al solito. Ma poi in realtà non è vero, solo io sono anti-nintendiano. Ma infatti, no. Infatti ho risposto che abbiamo nominato Nintendo in vano, abbiamo nominato in vano. Come nominare il nome di Dio in vano, insomma, stessa cosa. Nintendio, Nintendio, esatto. Che vedi, gli hai dato un'idea mo adesso a Nintendo. Mo il prossimo anno se ne esce con sta cosa. Nintendio. Va bene. Allora, dal sito Morgan, dal sito di archeologiavideoludica.net, c'è Morgan che ci scrive. Però aspetta, scusa, adesso mi è venuto in mente. Il suo fantastico messaggio. Ricordate che la prima puntata è stata la puntata su Vectrex, puntata molto precisa, molto tecnica, molto apprezzata. No, Marco, volevo dire sempre una cosa su Nintendo. Adesso che. Mo non ce ne frega un cazzo. No, perché ha fatto Nintendogs, farà Nintendogs adesso. Nintendogs, vabbè. Hanno fatto Populous, possono fare pure. Chi è che legge la mail di Morgan? Posso leggerla io? Vai. Allora, mi organizzo. Allora, organizzati. Però se mi giri il monitor, magari, che sai. Vabbè, La lettura in 3D di sbiego ancora non mi riesce. Questo episodio mi ha fatto completamente esplodere il cervello. Sono anni che seguo la storia del Vectrex e ricerco informazioni su questa particolarissima console. questa puntata è un perfetto compendio su questa originalissima incarnazione videoludica. C'è avuto un attimo di superlativi. L'ottimo approfondimento tecnico. Ti è piaciuta? Sì, sì. La storia della console, le curiosità, la stupenda parentesi con Marco sui software passato e futuro mi hanno fatto sospirare. Ecco l'archeologia videoludica che volevo. Il ritmo, Marco. L'equilibrio. Marco. Tu? Io. Che hai fatto? Ho fatto sospirare. Cioè, no, è una cosa brutta del compendio. L'hanno fatto sospirare. Il ritmo, l'equilibrio, il brio, l'assenza di sovrapposizioni, l'approfondimento tecnico. 10, 100, 1000 altre puntate di archeologia come questa, grande. Può darsi che ci arriviamo, vedi, cioè. Guarda, infatti, vedi Morgan, che per venire incontro alla tua gioia abbiamo fatto questa puntata di merda che tutti ci saremmo tranquillamente risparmiati, ma purtroppo il direttore Roberto, editoriale questo voleva, e noi, anche se insomma avremmo potuto ammutinarci, insomma abbiamo evitato di farlo. Comunque Gianluca, insomma, la prima puntata è stato il tuo esordio, quindi a insomma una bella soddisfazione. Questa la chiudi però. No, questa puntata mollerà. C'è Efautor invece che ci scrive il secondo commento, anche lui ovviamente inizia con un campione del mondo, perché vi ricorderete insomma l'accenno sull'uovo del tempo. Esatto, continuo a leggere io tanto. Cappotto, la prima puntata, incredibile. Peccato che una tecnologia così innovativa sia stata accantonata così velocemente. A 30 anni dal Vectrex ci ritroviamo con OpenGL e DirectX, che imitano lo stesso principio: gestione hardware della grafica vettoriale, e per poi spiegare tempo ad aggiornare il frame buffer richiesto dalla grafica raster. Non so cosa sta dicendo. Complimenti a tutti. No, complimenti a tutti per l'altissimo livello che avete raggiunto nella produzione del podcast. Un saluto in particolare a Gianluca Santilio, detto anche Santillo, certo, nuovo acquisto del team di AV. Consiglio a tutti di visitare il suo canale YouTube, veramente interessato e curato, che ricordiamo si chiama Gianluca Santillo, con un impeto di originalità. Mamma mia, è come Simone Pizzi, che c'è il supereroe del GDR che si chiama Simone Pizzi. Quello è ancora peggio forse nel GDR. Cioè, se tu ti immagini in un mondo medievale pieno di draghi, tu come ti chiami? Store. Chiama Simone Pizzi che ci deve aiutare. Esatto. come la pizza del Lidl, esatto, Alfredo, Alfredo, quindi dite che Simone, Alfredo capitano figlio Picco, di Alfredo, nipote di Antonio. Andiamo avanti. Vabbè, detto questo, comunque ringraziamo anche Faudor, che poi tra l'altro, sì, in effetti diciamo che abbiamo prodotto la 401, la 402, veramente due belle puntate fatte veramente con i crismi, quindi ci sembrava brutto farne una terza mia, esatto, bella, cioè, quindi abbiamo fatto, facciamone una. Voi dovete sempre tenere in considerazione che noi dobbiamo compensare poi questa sapienza che ogni tanto tiriamo fuori. Ma addirittura, e qui vabbè, qui sarebbe da fare un discorso lunghissimo, in realtà l'abbiamo già fatto nella puntata precedente, anzi nella puntata 4X0 uno, dove è esplosa la passione di questo Cristo che ha scoperto archeologia videoludica, la sta ascoltando, è rimasto perso nel tempo e ci rimarrà per sempre. Però vabbè, insomma, vediamo che cosa succede dunque, Marco, anche OGI, ci arriva OGI. Un commento sull'ultima puntata, diciamo, di Elfium, diciamolo bene, www.orgamesitalia.net, porco due, come si diceva una volta. Ascoltate, questo è Elfium, it's in the game. O anche Pizza in the Game. Ascoltate le ultime due, di puntate ovviamente, e ho tante cose da dire, ma siccome non ho tempo non ne scriverò. È bello, no, dire le cose, tirare il sasso e nascondere. Oh, io devo dire tante di quelle cose che però guarda, ma va. Ma va adesso. Non ne scriverò nessuna. Comunque, sono molto contento di ascoltarvi. Siete bravissimi, professionali e divertenti. Se solo posso fare una critica, mi dà molto fastidio quando interrompete un tizio perché sta portando avanti il discorso per fare una battuta. Ma noi dobbiamo farla apposta, siamo pagati. Mi piacciono i momenti ilari, per carità, ma a volte chi viene interrotto perde un po' di tempo a riprendere le file del discorso. Sappiamo che noi ci abbiamo perso i primi 3 anni a rompere le palle a scaletta per questo. Lo facciamo apposta. Infatti, una persona, infatti, la puntata sulla preservazione dei giochi aveva un ritmo superlativo, roba da ascoltare tutto in un fiato. Vabbè, era intervista, cioè, no, vabbè, due, poi diverso. È gratis, quindi mi faccio la pernacchia da solo. Bravo. Sono italiano, lamentarsi è un obbligo. Bravo, per la pernacchia. No, nel senso che vabbè, tutte le critiche sono sempre accette. Noi con tante critiche abbiamo anche migliorato la trasmissione. È vero pure, insomma, che poi dopo c'è sempre un limite, oltre al piacere di fare come la facciamo, perché poi alla fine ci divertiamo anche, no? Se deve diventare solo una cosa professionale, comincia a diventare un po' complicata. Da Facebook. Salutiamo sempre Goldstein. Ah, Goldstein, che tra l'altro non in questa puntata, anche avremmo già potuto farlo, però c'è stato un duetto tra lui e Ragfox, si sono duettati poeticamente, e quindi voglio preparare una cosa particolare, ci faremo un finale della prossima puntata. Infatti ne ho avuto paura. E poi ci sono... deve essere una cosa proprio fatta bene, deve essere... Alessandro Beccaccino Alviero da Facebook. Premettendo che non sono un esperto, volevo scrivere alcune precisazioni, ecco, personali. Subito con scaletta. Ecco, subito. Nella preservazione videoludica e quindi nella preservazione dell'esperienza, personalmente ritengo importante anche l'utilizzo di monitor d'epoca. Inutile negare il fascino della bassa definizione anni 80 nel monitor CRT. Nei MORPG, che c'è? Come? Ma tu c'entri sempre. Sappilo. Nei MORPG, scaletta, sappiatelo. Sempre colpa di scritta. Nei MORPG avete citato World of Warcraft e GV, che non so cosa sia, Guild Wars forse, ma il vero capostipite è Ultima Online. Sì, lo sappiamo che valeva la pena online di essere citato per il semplice fatto che il gioco vive ancora, in particolar modo nei server privati, in cui è possibile incontrare ancora oggi farmer che insegnano come giocare ai nuovi players. E vabbè, c'è qualcosa lì? È vero sul discorso dei monitor CRT, l'abbiamo anche detto, cioè nel senso l'abbiamo detto in archeologia informatica, magari se ti capita e ti interessa vai, cercalo su iTunes, abbonati, perché in realtà è molto più specifico poi come podcast, però quando parliamo di preservazione, quando abbiamo parlato con Carlo Sant'Agostino, abbiamo fatto proprio questo tipo di discorso qua, il fatto che l'informazione digitale è importante, è fondamentale per l'archiviazione, la memorizzazione dei dati importanti, però è vero pure che c'è anche un tentativo di recupero di quelli che sono gli strumenti con i quali funzionavano determinate cose, per raggiungere quel livello di esperienza che l'emulatore non ti può dare, che poi è una cosa che ha detto anche Gianluca in puntata oggi, no? Quando stavamo, non mi ricordo di che cosa stavamo parlando, dell'astrokey, del controller. Esatto, del controller, bravo, cioè nel senso che però siccome che tutto non potrà mai essere conservato, è chiaro che purtroppo questo poi è un discorso a parte. Sull'ultimo online, sì, è vero, però vabbè, Akira ha fatto il suo discorso molto specifico ed era estremamente legato alla sua esperienza su World of Warcraft, chiaramente, e quindi ovviamente gli è venuto quello come esempio. Quando parleremo della storia e delle esperienze dei giochi di ruolo online, chiaramente Ultima già di suo come gioco di ruolo e poi Ultima Online sarà sicuramente un capitolo importante, questo nessuno lo mette in discussione. Fra 10 anni, però ne parleremo. Non so poi se Gianluca o se... No, guarda, non lo devo aggiungere, nel senso... Non sono tra l'altro neanche un esperto di giochi online, non sono fatti assolutamente... No, bene. Neanche noi più di tanto, però insomma... Invece so che Scaletta è un multiplayer di quelli... Ahoia. No, Vabbè, comunque, andiamo a punto 3. Ho ascoltato un paio di puntate e mi rendo conto che ci sono pochi nintendari tra la vostra crew. Dai, questa cosa di Nintendo. Qui sono bestemmie, Io sono stato un possessore di Nintendo 64. Ecco, vedi. Ce l'ho ancora. Infatti Nintendo, che personalmente ritengo l'artigiano dei videogiochi, con la preservazione videoludica ci campa da qualche anno. Prima riproponendoci i classici su GBA, che non so cosa sia. Il Game Boy Advance, ricordo... Che vergogna, io non sono un Nintendaro. Tu sei Nintendaro? No, vabbè, però il Game Boy Advance lo so pure io, cioè no, non c'ho mai veramente no. Se non ricordo male, della serie NES Classics e successivamente nella Virtua Console. Sulla Wii, per non parlare di Neo Geo e della sua ultimissima console, dal prezzo quasi accessibile, il Neo Geo X. Quasi accessibile, dedicata ai puristi delle 500 lire per una partita. Cioè devi mettere per davvero. Sì, 500 lire è bello quando giocavamo noi. 500 lire, manco l'avano stampato. 100 lire. Sicuramente per il futuro anche i forum, che temporalmente si posizionano dopo le riviste e prima del tubo, avranno un ruolo importante nella preservazione dell'esperienza videoludica. Su questi si potrebbe scrivere una serie di tesi di laurea in sociologia. Assolutamente sì, infatti www.allgamesitalia.net è il forum di riferimento per noi, che chiaramente stiamo entrando nella grande famiglia. Ci scriviamo, anche siamo ci stati redattorati, quindi ci diamo pure ogni tanto. Ogni tanto ti diamo una bomba a mano e ce ne nascondiamo, esatto, per vedere così dall'ombra cosa succede. Buon podcast Ale, lo salutiamo. Bestemmie varie per la mancanza. Ti preoccupare, Ale, ci pensiamo io e Gianluca a riportare un po' di nintendosità. Sì, ci sono dei commenti. Io tra l'altro anche... nemmeno sono molto Nintendaro, cioè ce l'ho tutte le console a dire il vero, però di non... giapponesità allora in generale, no? Esatto, vai. Sono un po' di commenti da Twitter, caro Sky. Più che commenti sono nuovi iscritti, suppongo. Perché lo mettono sotto i commenti. scaletta. Stai cambiando la scaletta. Nuovi scitti. I nuovi scitti è scritto. Va bene, va. Neanche li scrivere. Salutiamo, dai, quelli come noi che si iscrivono al canale Twitter videoludica. Dai, chi sono? ce n'è pure uno famoso, insomma, sì, infatti. No, è lui però. Allora, abbiamo la sorella. Salutiamo Francesco Tex Faxio. Salutiamo Archeoinformatica, chissà chi sarà. che ci facciamo le marchette fra di noi, che vergogna. Poi salutiamo Marco Mottura di GN, che si è abbonato al nostro Twitter. Luca Trucchia. Salutiamo Nicola Lovecchio. E anche Metal Mark, che vorrei salutare tu sicuramente, Simone. Sì, Marco Accordi Riggins, che conosciamo per il Vigamus, e tante altre cose. Salutiamo Dario Marchetti. Salutiamo anche Game Over Dose, ah. Ennio Pirolo, o Pirolo, mi scuserà. E poi salutiamo Martina Ghiringhelli di Games Princess, che io adesso sono diventato il più grande fan di Games Princess, perché io sono vestito in rosa in questo momento, a parte scherzi, non la salutiamo. Poi Sbrandon. Poi sembra una parodia dei Profilax anche salutiamo anche Cicipo Riccardi e infine Davide Mancini. E non c'è sta Gianluca Santillo stavolta, no, non c'ho Twitter, no, c'è una Gianluca Santillo, un account, ma non lo uso, non so manco la password, no, e linkato solo ci sono della morte. Gianluca Santillo, anche detto Gianluca Santillo, che ovviamente è stato giustamente rinominato nello stesso modo nella puntata di Calavera Caffè, che è uscita proprio in questi giorni, che sta uscendo, anzi in questi giorni, la prima puntata della seconda stagione. Non ho avuto ancora il piacere di ascoltarla. Che emozione, che emozione, che emozione! Ci ha messo tanto per ripartire sto podcast, però è partito con il botto, nel senso che dentro è scoppiato tutto, certo. E va bene, commenti da G Plus, ovviamente c'è la morte, c'è sempre la morte che ci saluta e ci aspetta, insomma. E poi c'è la mail, è arrivata c'è una mail di Trucchia, che però non c'ho, che non c'hai, vabbè, lo ringraziamo, lo ringraziamo. Di Twitter, probabilmente sì, lo ringraziamo e ovviamente gli risponderemo anche, insomma, privatamente, visto e considerato che cioè è quello che metterà una mail quello che si merita. Non so se ah sì, poi vabbè, ci sono un po' di risposte da dare. Non so se c'è la frase finale, che penso l'abbiamo un po' abolita sta tradizione del sì, anche perché insomma è superata. Ah, no, c'è. Allora, prima salutiamo. Allora, prima della frase finale facciamo un bel giro di saluti. Gianluca. Ciao a tutti, puntata meravigliosa. Secondo me le console più sfigate sono spesso le più interessanti, quindi spero che abbiate condiviso il nostro piacere. Ma sì, noi in realtà ci scherziamo, ma in realtà, come Giuseppe sa, la mission fondamentale di archeologia videoludica all'inizio era proprio questa, era proprio quella di andare a scoprire cose che, cioè, parlare del Nintendo 64 sono buoni tutti, no? Poi a parlare dell'Epoch Man, cioè chi lo fa? Esatto. Marco, saluto tutti quanti, se mi volete raggiungere sperate di correre più veloce. E il mio blog è distruggivons.com però sono shatner.io no, sono anche raggiungibile su G Plus con Marco Gualli, oppure su Facebook come il distruggitore, non vi dico l'altro nome perché è un po' complicato. Comunque, se voi mettete il distruggitore vi escono qualche pagina. La mia è col fumetto che non c'entra una cippa, quindi mi potete rintracciare. E poi basta, che altro, basta, che devo dire, niente, devo salutare tutti quelli che mi conoscono. Vi saluta zio, ciao zio. Allora, vi saluto anche io. Chiaramente l'unica cosa che ho da dirvi, a parte l'uscita di Calavera Caffè e Archeologia Informatica, il fatto che comunque questa stagione è ripartita quasi a tutti gli effetti, posso anche dire che ufficialmente da questo mese Dietrologia Videoludica e Archeologia Videoludica fanno parte del blocco di All Games Italia, quindi da presto, fino a quando sarà completata la migrazione, i podcast si troveranno nella specifica sezione podcast di All Games Italia e tutti quanti noi siamo diventati redattori del sito, quindi troverete i nostri articoli all'interno del sito, quindi c'è questa duplice collaborazione che finirà ovviamente nel sangue. perché già è iniziata male. No, scherzo, sul serio, anzi sono veramente contento di questa unione che, come abbiamo sempre detto, caro Giuseppe, l'unione fa la scorza, esatto, infatti. Va bene, detto questo io vi saluto, salutiamo Roberto, tutto, anche gli assets di Alex Raccuglia, salutiamo tutti, insomma, quelli del team di Archeologia Videoludica, quelli che si vedono e quelli che non si vedono, e anche quelli di IPN, vogliamo tutti bene, ciao, ci vediamo alla prossima puntata, vai Peppe. Bini, finiamo con una citazione di tale Marcus Brigstocke, attore e satirista inglese, che ci delizia con questa massima: se Pac-Man ci avesse influenzato da bambini, staremmo tutti correndo in stanze buie, masticando pillole e ascoltando della monotona musica elettronica. Ciao! Mamma mia, quanto è vecchia! Pure perché è vero. Ciao! Ciao!